finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere e 31 minuti primi sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Questa sera, in anticipo di un'ora dall'inizio abituale di 25 o'clock, perciò ringraziamo Elettrodo che ci ha lasciato questo spazio in quanto non è qui a Roma, perché come annunciato così per vie brevi, ve l'avevo un po' accennato in diretta, questa sera andremo a presentare una cosa che forse più o meno era già stata presentata o comunque annunciata o comunque detta, che è Renoids 10, il triplo CD uscito proprio in occasione di Renoids. Siete all'ascolto perciò di 25 o'clock, Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Radio che nel 1977, e stiamo appunto entrati nell'anno radiofonico dei 40 anni ormai, nella stagione radiofonica che ci porterà appunto ai 40 anni della radio, troverete le informazioni riguardanti la radio stessa, nonché la modalità di ascolto in streaming e anche come sostenere questa emittente che, come sapete, vive grazie all'autogestione e alla sottoscrizione, al sostegno di tutti e tutti i compagni e le compagne, ascoltatori e ascoltatrici che ne condividono il progetto editoriale. Quindi sempre sul sito della radio www.ondarossa.info c'è una paginetta intera dedicata a vari modi, a varie possibilità che avete per sostenere Radio Onda Rossa anche economicamente. Noi, siccome siamo ormai vetusti, vi diciamo il metodo tradizionale, chiamiamolo così, quello con cui da sempre si sottoscrive per Radio Onda Rossa. 61 80 40 01 è il numero del conto corrente da intestare al laboratorio culturale Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, che una volta dicevamo Radio Onda Rossa e basta, adesso siamo più precisi. Quindi Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, 00185 Roma Sallollo, via dei Volsci 56. Il mixer, come sentite, non è che va un granché questa sera, ma anche le altre sere. E come spesso ripetiamo, questo è un motivo in più per aiutarci. Abbiamo detto anche dove stiamo, cioè via dei Volsci 56, quindi se volete venire qui, la radio è aperta la mattina alla sera a portare brevi mano, come si dice, il vostro contributo. 06 491 750, il recapito telefonico di Radio Onda Rossa, illuminate di rosso la redazione della radio più rossa che c'è. Le vostre comunicazioni alla radio ondarossa@ondarossa.info, per le mail alla redazione, per insultare il sottoscritto invece avete la mail classica 25 o'clock@ondarossa.info, 25 scritto al numero 25 o'clock, dove oltre agli insulti sono graditi anche le vostre proposte musicali. Se avete qualcosa da farci ascoltare, postatelo lì e noi cercheremo di condividere. Ed eccoci quindi in diretta con, come abbiamo annunciato, colui che ci aiuterà in questa serata, una vecchia voce di Radio Onda Rossa. Come ti posso annunciare, Disaccordo, insomma, tutta la serie prima della Dual Core premiata ditta qua, che sì, andava e va in onda il sabato. Metti la latte in musica, prima ancora Morfire, insomma, una voce di quelle che non si possono e non vogliamo dimenticare, che è ritornata per l'occasione proprio per presentare cosa. Sì, allora intanto grazie per il bentornato, nel senso qua è un anno abbondante, purtroppo che non riesco ad usare i microfoni di questa radio in modo proprio, ovvero proponendo io qualcosa di sensato. Dunque sono venuto. Attenzione che la radio però appunto è una cosa che poi ti sappicci addosso e una volta che hai ripreso poi ormai sarai costretto. Sì, però per la prima volta sono dall'altra parte, sono la parte dell'ospite, diciamo, quindi un ruolo particolare per me. Insolito. No, però insomma, non si sa mai, insomma, io sono veramente contento, tra l'altro di tornare, insomma, la radio è sempre un pezzo di storia per chiunque di noi non solo ci sia passato, ma insomma in città abbia semplicemente, diciamo, svegliato la propria coscienza, no? Per cui io ricordo sempre chi me lo chiede, insomma, la prima volta fu nel 94 che ascoltai questa radio per un puro caso, insomma, e da allora rimane un punto fermo, sono passati un po' di anni, insomma. E mi sembra averla sentita pure su una cosa che va in automatico, questa roba qua. C'è ancora? C'è ancora, gira ancora, perfetto. Una delle tante, diciamo, facce del personaggio, sì, che abbiamo qui davanti, multiformi iniziative. Esatto. Una di queste iniziative che hai preso, a cui hai collaborato, è... Sì, è Renoiz Project, insomma, di cui in realtà oggi parliamo attraverso un pezzo che è appunto Renoiz 10, questa compilation su cui abbiamo lavorato tanto, direi forse anche troppo per quello che dovrebbe essere una compilation di questo tipo. E insomma, una compilation che è nata con l'occasione dei 10 anni dall'omicidio di Renato Biagetti. Insomma, Renato, che chiaramente dà il nome poi al progetto nato successivamente, ma che era nelle sue corde, nella sua testa, nei suoi desideri, come in realtà in parte di quelli di Antonio, insomma, altro compagno scomparso proprio lo stesso anno di Renato per altri motivi, insomma, lì una morte sul lavoro. E da tutto quello, insomma, in questi 10 anni di cose ne sono accadute, ne abbiamo fatte. E insomma, un po' per provare a rilanciare più che raccogliere in qualche maniera, abbiamo provato a costruire questa compilation di cui, insomma, ora vi raccontiamo forse qualche background un po' più disastroso, ed è il risultato che invece è fighissimo, perché possiamo anche innanzitutto possiamo dire che è un triplo CD con 15 tracce a botta, quindi sì, stiamo parlando di 45 tracce di gruppi che più o meno a vario titolo hanno partecipato in questi 10 anni alle varie iniziative di Renoiz, più o meno, non so, sì, se proprio c'è stata una... In realtà diciamo che c'è un... la ricerca è stata molto lunga, nel senso, sai che la storia anche dei gruppi... Ne sono rimasti fuori anche molti? Ne sono rimasti fuori tanti, sì, tra cui chi banalmente si è dimenticato di mandarci la traccia. Quindi proprio cito una, perché tra l'altro ci sono 3 CD e uno ha una traccia in meno. E la traccia mancante è proprio di lei, che, diciamo, stiamo aspettando, poi a un certo punto uno deve chiudere. Ci siamo veramente organizzati, come si dice, come pere cotte, proprio con sia noi verso di lei che lei verso di noi. E però ci tengo quantomeno a nominarla, perché la sua traccia è come se fosse lì, ed è Giulia Nania, su cui chiaramente noi tenevamo anche un po' a questa partecipazione. Ci siamo strappati i capelli insieme quando poi ci siamo visti dopo la pubblicazione di questa compilation, ma è la traccia mancante, diciamo, per il CD credo sia quello rosso, che ha 15, non 16 tracce, giusto, perché sono 47 in totale. E la 16ª del CD rosso è Girenania, che vediamo, insomma. Insomma, vabbè, poi casomai recupereremo, magari manderemo qualcosa dalla rete, sì, però insomma, proprio anche per salutarla e per ricordarci. Sì, comunque la ringraziamo lo stesso. Cosa abbiamo ascoltato? Tanto per dare, ecco, prima di iniziare con gli aneddoti, per gli aneddoti della stesura e della preparazione della... proprio tecnica della compilazione dei tre CD. Sì. Abbiamo ascoltato la prima traccia, che si chiama Paese di stronzi, perché era facile da ricordarsela. Esatto, sì. E poi perché ti piaceva il titolo? Perché mi piaceva il titolo? Esatto, che insomma, cioè, sono abbastanza d'accordo, tra l'altro, diciamo, sì, con il concetto esposto. Io sono anche d'accordo su Uovo, per esempio. Anche come dittongo, insomma, mi piace un sacco. Sì, Paese di Stronzi, che tra l'altro possiamo annunciare, perché poi le tipologie di tracce che sono arrivate, così come i gruppi che hanno collaborato, hanno in realtà, tra virgolette, delle categorie. Loro sono un gruppo che ha collaborato con Renoiz, insomma, c'è emozionalmente e non solo, anche politicamente vicini, ma fondamentalmente è tra quelle tracce che è stata donata, cioè né registrata né scritta, ma donata esplicitamente per la compilation. Questo esplicitamente, magari dopo ne parliamo meglio, ma è una caratteristica, credo, centrale di questa compilation, così come la collettività di lavoro che c'è stata dietro, che è stata molto bella, insomma. Ma non so se tu... No, io volevo chiederti solo la prima cosa, no. sì, più o meno, no. Le curiosità che ho io in quanto, diciamo, utente del lavoro. Semplicemente la divisione dei tre CD in colori, che cosa rappresenta il colore e come si associa al contenuto che c'è dentro, così almeno abbiamo detto le cose, quelle proprio che bisogna dire per forza, insomma. Ok, allora, che sembrano tutte studiate bene queste cose, in realtà chiaramente non lo so. Però esatto. Però diciamo, la domanda c'era e io rispondo perché con... tutti se lo saranno chiesto, perché hanno detto magari, ma quale sarà il filo conduttore? Non c'è, punto. Io chiaramente adesso ti do una risposta che fa sembrare che invece è tutto che pensato nei minimi dettagli, ovviamente, perché è chiaro che la facciata è tutto in questo paese di stronzi, esatto. Quindi niente, vai, i colori che sono nero, rosso e verde. Beh, in realtà sono nero, rosso e verde perché sono e bianco, perché poi c'è c'è il simbolo dello scimmione, insomma, che è no, Combat Tape è il simbolo di Renoiz, o meglio dei Renoizers e delle Renoizers che hanno costruito e portato avanti il progetto, gli scimmioni, diciamo, no? E quindi rosso, nero, bianco e verde sono i colori proprio di Renoiz. Cioè sono i colori che ci appartengono, le magliette, i loghi, tutto quanto sono i colori che contraddistinguono, diciamo, cromaticamente questo progetto. E sono i colori assoluti, insomma. Sono anche i colori, esatto, che ci identificano in qualche maniera politicamente parlando. Certo. No? Dici il verde, anche il verde. Perché no il verde? Politicamente che c'è contro il verde? Niente, cioè è un bel colore. A parte che dà Lega, però non è quella l'accezione, diciamo. La Lega è un po' inventata. Secondo, è una sfumatura leggermente diversa. Ci fai caso, comunque non è proprio quel verde lì, diciamo. Esatto. E non è neanche quello del trifoglio, perché ci tengo a questo punto. Dobbiamo distinguere, diciamo, andiamo. C'è tutta una pletora comunque di verdi. No, vabbè, è chiaro, insomma, ci si contraddistingue sia come progetto, come la suddivisione in CD. La suddivisione in CD è stato un po' tema d'animo di quelli stratosferici. Perché in realtà il primo supporto pensato per questo, c'è stata una lunghissima discussione sul supporto e sulla questione del copyright, sulla questione del copyright, in realtà c'è, cioè, del bollino TIA e tutto quanto. E per evitare tutto questo, in realtà eravamo andati in fississima sul fatto che dovesse essere prima tutto online, poi dovesse essere vinile, poi doveva esserci il DVD, che c'entravamo i contenuti multimediali. Questo era il primo progetto, quindi abbiamo chiesto anche ad attori, attrici di fare contributi, fumettisti. Quindi quell'elemento di megalomania di cui parlavamo. Gigantesca, proprio, che senza senso, oltretutto. E quindi siamo finiti su una pennetta USB, ok, con loghetto stampato di Renoiz, eccetera. Convinti, fantastico, tutto bello, e quindi ci sono tutte le tracce senza distinzione, no? Poi capiremo se fare cartella o non fare cartella, eccetera. Arriviamo chiaramente alle ultime tre settimane che dovevamo chiudere tutto. Ultime tre settimane, che una roba del genere è tipo l'ora prima di chiuderla, praticamente, certo. Corrisponde a quello. Facciamo riunione e cambiamo idea. No, che schifo, costa troppo, comunque ci devi mettere la SIAE, perché tra l'altro questa è una cosa che abbiamo scoperto. Ci devi mettere la SIAE su, se tu te fai stampare una pennetta, ci devi mettere il bollino SIAE, o comunque ci paghi la SIAE sopra. Uguale, quindi non è cambiando il supporto, cioè, che cambi l'ordine del risultato finale, insomma. Esatto, e quindi fondamentalmente in realtà un po' tutta questa serie di cose, in più il fatto che la pennetta in quanto supporto cancellabile non è uno strumento permanente e quindi non lascia il segno, siamo tornati sul CD e su cui appunto poi siamo riusciti, diciamo, con un escamotage a non mettere ciò che non volevamo mettere. E però appunto abbiamo ritrovato questa formula, avendo alla fine fatti i conti, diciamo, 47 tracce, era impossibile mettere in un supporto solo. Abbiamo detto doppio CD, non ce l'abbiamo fatta, vada per il triplo. E la forma più economica era questo qua, che è il vecchio cofanetto proprio anni, fine anni 90, insomma, con la parte nera in mezzo, no? Quindi 3 CD che quando apri ce l'hai più o meno su 3 facciate diverse, quel libretto in mezzo. La revisione è andata davvero, è stata una cosa molto complicata, perché noi avevamo da un lato generi molto diversi, appunto da Yow, no? Che insomma, mm-hmm, possiamo considerare progressive sperimentale, jazz, sì, sì, sì, una cosa del genere, al punk rock and roll, al reggae, al ragamuffin, l'hip hop, certo, cantautorato, certo. Ska, ska punk, che pacianca, tutto sommato è la produzione che è passata per Renoiz. Molte cose sì, o comunque molti stili sì. Alcune cose in realtà sono cose che ci piacerebbe fare e che ancora non siamo riusciti a fare. Ci sono alcuni gruppi che, diciamo, sono nella nostra testa, ma che ancora stiamo battendoci per averli. Avete cercato di acchiapparli anche in questa occasione? Sì, non posso mentire, sì. Diciamo, un po' l'abbiamo acchiappati, cioè abbiamo il contatto finalmente, quindi ci stiamo ragionando, sia italiani che non, perché poi abbiamo anche dei contributi internazionali. Infatti poi parleremo anche di quelli. Quindi siamo andati poi in realtà a un ascolto, gusto di ascolto. Adesso no, io ti chiedo un'altra cosa. I 3 CD sono questo, però, mentre finisci, diciamo, esatto, di esplicitare meglio questa cosa del gusto di ascolto, in multitasking devi pensare alla traccia successiva che manderemo. Molto, molto bene, sì, grazie. Ok. Però senza esitare, senza fare capito, devi riuscire a fare tutto in contemporanea. La so. Poi, l'unica domanda che ti faccio, vuoi che ti sciocco o vado sul sensato? Che ne so, scioccamose dopo, dai, adesso andiamo sul sensato. Va bene, molto bene. E niente, quindi la questione di gusto e di ascolto, cioè ci sono sembrate queste, abbiamo fatto una serie di prove e ci sono sembrate queste una serie di sequenze che noi avremmo ascoltato con piacere, al di là dei generi che c'erano dentro. Cioè, ognuno di noi, più altra gente che c'era vicino in quel periodo, mm-hmm, ha ascoltato una serie di sequenze dicendo questa qua funziona, mm-hmm, all'interno di quelle sequenze abbiamo dato un senso invece all'ordine delle tracce, questo sì, quello è stato scelto. Le prime tracce sono tutte scelte, le ultime tracce sono tutte scelte e una barra due tracce in mezzo hanno una posizione che noi abbiamo voluto che fosse quella. Adesso non vi dico quali, chiaramente, no, ma anche perché se lo devono scoprire da soli, se lo devono scoprire da soli, tutto, sono curiosità che verranno semplicemente se voi trovate la maniera per accaparrarvi il disco, che peraltro è anche qua in radio. Esatto, questo lo vogliamo dire. Bene, prossima traccia, andiamo con l'apertura di questa compilation, che mi sembra molto sensata come cosa. E vogliamo dire subito chi sono, l'ascoltiamo prima? Dimmi tu. No, perché non è semplicemente un fatto tecnico, siccome il disco lo sta leggendo il lettore, benissimo, possiamo direttamente mandarlo. Molto bene. Onda Rossa 87, nome della modulazione di frequenza, 25 o'clock ai controlli, e stiamo 0649 1750, ovviamente se volete intervenire, trillarci, fare quello che vi pare. Stiamo parlando appunto di un po' della storia, del racconto che si può fare intorno a questa produzione, questo lavoro appunto che è stato fatto per far uscire questo disco Renoids, che è un po' coronamento di tutta una vicenda durata 10 anni, e come dicevi te anche il rilancio, il la proposizione per il domani. Sì, chiaramente io non so adesso se tu vuoi che io vada a braccio e potrei dire intanto questa cosa, che la traccia che abbiamo ascoltato sono Cast for Cause, gruppo di Terni, diciamo di Renoids 2, quindi diciamo sono i nostri fratellini e le nostre sorelline ovviamente, che insieme a noi hanno costruito questo percorso della compilation Renoids 10. Infatti un po' ci tengo a dire, è un percorso che è stato estremamente collettivo, un po' forse la prima cosa che realmente abbiamo costruito insieme in anni un po' che ci sono sia Renoids che Renoids 2. Quando è partito Renoids 2? Tanto così per parlare Renoids di una cosa. Renoids 2 sono 3 anni. Vado un po' a memoria. Come si è... Se poi li possiamo chiamare così. Sì, infatti una ipotesi era anche quella. Come si sono, cioè come è nata questa collaborazione con questi compagni e compagne di Terni? Allora, diciamo che poi magari davvero li possiamo chiamare, gli possiamo chiedere più specificatamente. Allora c'è una relazione, diciamo, umana. Mm-hmm. Che loro sono compagni e compagne, no, che erano attivi. Ce lo dici te, poi ce lo facciamo dire da loro, vediamo, dirgli nulla, e sicuramente non convergeranno. Io ti dico il minimo indispensabile, così cerco di non sbagliare. Diciamo, compagni e compagni attivi al Germinal Cimarelli, che insomma è il centro sociale di Terni, venuti a conoscenza insomma della vicenda di Renato e di anche tutta la progettualità che poi dal 2008 insomma si è legata a Renoids, allo Acrobax, e hanno deciso anche loro appunto di avviare una progettualità dal punto di vista musicale, appunto loro avendo anche alcuni di loro alla band di Chaos for Cause, quindi hanno detto facciamo anche noi una sala prove. In realtà anche loro hanno l'obiettivo, un po' prima o poi riusciranno a, secondo me, anche a fare questa seconda parte, di creare uno studio. Mm-hmm. Mettiamola a disposizione, la usiamo noi come la usano gli altri, insomma, e si crea una progettualità attorno alla musica e quindi alla cultura indipendente. E da lì fondamentalmente poi semplicemente si sono messi al lavoro e hanno creato questo progetto. Noi ovviamente ci siamo una sorta di clone, ma insomma nelle idee, poi diciamo nella idea base, poi dopo insomma si sviluppa ovviamente sul territorio, che sì, è quello... certo, più che clone una moltiplicazione. Che ci piace. Tra l'altro esiste anche una Renoids 3 a Berlino, ad esempio, sì, che è più legata al DJing, di cui attualmente io non so moltissimo. Quando sono stato a Berlino era chiusa, quindi non sono riuscito neanche a vederla, però ci devo tornare appunto per scoprirla. Ma ad esempio altri compagni di Renoids conoscono invece quella realtà. C'è un compagno storico di Renoids Roma che in questo momento vive a Barcellona ma ha lavorato a Berlino, per cui ha lavorato un po' anche con loro. E cioè, ecco, la moltiplicazione è quello che a noi interessa, cioè la riproducibilità, la famosa riproducibilità, no, delle progettualità che facciamo, cioè quello è l'elemento vincente. Non è importante, no, duplicare quello che faccio io, quanto che tu prendi magari quello che faccio io e ci fai una cosa che può essere più figa, può essere leggermente diversa, però nella direzione più legata al tuo territorio. Perché però magari c'ha semplicemente il marchio, il nome, che comunque è un nome evocativo. Esatto. E che appunto e quindi ha un'affinità politica. C'è un'affinità ovviamente politica, un'infinità di intenti e di spirito. Esatto. E quindi niente, diciamo che questo collettivo allargato che vede Renoids Roma, Renoids Terni e questo compagno che appunto in questo momento vive a Barcellona, per cui diciamo ha collaborato venendo ogni tanto un paio di volte qui a Roma, ma anche da lì da Barcellona, dove tra l'altro sta lavorando ancora alla nuova versione del sito che parte proprio dalla compilation per ripartire, no? Il discorso del rilancio. Cioè noi abbiamo usato anche un po' tutto questo discorso della compilation, un po' perché tra le mille idee che ci abbiamo avuto l'anno scorso quando pensavamo al decennale e come contribuire a tutta la campagna che si è creata nel decennale Io Non Dimentico, di cui appunto si è fatto tanto, dal fumetto di Harry Bush e Zero Calcare fino a tante campagne, manifestazioni, incontri, dibattiti. Ma anche per esempio il fatto stesso appunto di utilizzare proprio il loghetto di Io non dimentico in tutte le iniziative politiche, sì, che ci sono state a Roma, proprio a dire, a mettere appunto quel marchio e a dire badate che comunque su almeno questo punto, perché poi anche una situazione abbastanza eterogenea, no? Certo. È quella del movimento romano, alle volte anche spigolosa, diciamo, difficile da comprendere. Ma non la Umbria, sei politicamente corretto, esatto. sono riuscito a trovare il termine, bravissimo, che non offendeva nessuno. Mi sei piaciuto un sacco. Però insomma in questo quel marchietto lì c'era sempre, l'abbiamo trovato, sì, in un anno di iniziative politiche l'abbiamo sempre trovato. Sì, credo che fosse anche un po' un intento non solo di chi ha fatto partire quindi quella campagna, quindi anche di compagni e compagni di Agrobax insieme a, quindi a Renoiz, ma alle madri per Roma Città Aperta eccetera, ma poi a tutti quelli che invece, tutte quelle che hanno aderito poi a questa campagna a livello nazionale ad esempio. E l'intento era un po' anche quello di riprendere un discorso sull'antifascismo. Ci sono tanti pezzi, come spesso accade nei percorsi dei movimenti sociali, insomma, che lavorano, cioè l'antifascismo non è un, come dire, un'area sociale, un'area di intervento su cui non si fa nulla, ma probabilmente un po' ci si perde i pezzi dal punto di vista collettivo, cioè della collaborazione, della costruzione di un vero tessuto sociale, no, dell'antifascismo. Certo. E a Roma noi questa cosa la subiamo tanto, insomma, al di là di ritrovarsi i fascisti, no, al centro di Roma a maggio, il 21 maggio. E che comunque è significativo un po' del buco in qualche maniera che si crea e su cui noi in qualche maniera come movimenti sociali, come compagni e compagne, come antifascisti e antifasciste ci dobbiamo far carico anche un po' di reagire, no, a questo, perché non è fattibile una roba del genere, non è fattibile una città come Roma, e quindi pezzi da ricostruire ci sono, pezzi collettivi, che poi appunto la radio ieri, sì, non è antifascista Radio Onda Rossa, non so che sto a parlare, ci sono migliaia di collettivi o comunque migliaia di persone che a Roma lavorano anche in questo senso, costruendo pezzi di antifascismo quotidiano, di resistenza quotidiana. Ci sono un sacco di persone che magari non costruiscono percorsi ma si riconoscono in un percorso dell'antifascismo, una visione antifascista. Ci sono musicisti che si ritengono tali ma che magari non sono militanti, perché ricordiamoci anche questo, insomma, quello di cui stiamo parlando non è un discorso di militanza e basta, cioè è molto più ampio, cioè ciò che si è disgregato probabilmente, su cui tra la campagna Io non dimentico e anche un po', questo è stato il nostro contributo, la questione della compilation, e così come su tante altre chiaramente iniziative, mo stiamo a parlare di queste perché no, sono di questo che parliamo, appunto... ma su questo si tenta di ricostruire, cioè si tenta di riconnettere in qualche maniera, certo, no? Un'analisi. Quello è qualcosa che ha funzionato, ma proprio poi dall'altro punto di vista, Renoiz stesso, cioè il progetto, lo studio di registrazione, la sala prove, la scuola di musica eccetera eccetera, è comunque antifascista nella pratica, certo, non tanto nell'enunciato, nel senso che quando uno poi crea una situazione, un posto dove possono girare pischelli, gente di tutta l'età, come dici te, non necessariamente militanti, e sono in qualche maniera, poi magari ne parliamo del funzionamento, mm-hmm, del progetto Renoiz, sono in qualche maniera costretti da come dire, la struttura stessa del progetto a fare le cose, a mettere mano direttamente alle attrezzature, a dover collaborare, a dover confrontarsi, a dover praticare una forma di autogestione, certo. Questa qui è naturalmente antifascista, è una cosa che ti tiene lontano da le facili qualunquistiche generalizzazioni o le semplificazioni proprie appunto di quell'ideologia. Sì, sì, chiaro, come ad esempio mettersi a disposizione in qualche maniera, no? L'anno scorso, anche 2 anni fa, per il progetto Renoiz, poi appunto magari ne parliamo più nello specifico di come funzioniamo, ma sono stati anche 2 anni un po' complicati, no? Perché poi i collettivi, che siano singoli progetti, che siano collettivi più ampi, no? Ma anche la radio stessa lo sa benissimo, insomma, subiscono a volte anche un po' delle cadute di tensione organizzativa, certo, di capacità di partecipazione, eccetera, e quindi ti rimetti anche in discussione, no? Però ecco, anche solo, come dici te, il fare le cose, mettersi a disposizione di piazze, di altre situazioni, della radio, no? Cioè di altri centri sociali, cioè chi ti chiama e ti dice senti ma devo fare quella cosa, cioè comunque anche solo questo ti permette proprio di praticare quello che magari non riesci a sederti a analizzare magari nella tua riunione, per dire, di progetto. Sì, sì. Però l'hai fatto, lo fai, lo continui a fare, nelle piazze ci stai, nelle iniziative ci sei, chi ti chiama sa che può comunque contare su gente che non lo fa così perché non ci pensa o perché c'ha una capacità o della strumentazione, ma perché è una scelta, e la scelta quella la puoi discutere o non discutere, la puoi condividere o non condividere, dopodiché la scelta l'hai fatta. Venire chiaramente in sala prova, venire in studio, venire comunque a quella tipologia di scuola è una scelta. E appunto, anche un po' perdersi questi pezzi, cioè questa coscienza, è anche uno dei motivi per cui ti spinge poi a rimetterti in discussione e provare a rilanciare. E per quello anche un po' il rilancio su questa compilation. Cioè, allora, benissimo, capiamo come ribadire il fatto che noi siamo una scelta. Parliamo con gli artisti, parliamo con i musicisti, parliamo con chi ci ha frequentato e ci frequenta, con chi vogliamo che ci frequenterebbe, no? Ci frequentasse in futuro, in italiano anche importante, diciamo, ci frequentasse in futuro, e spieghiamo qual è la nostra scelta, qual è la nostra identità, no? Che non è un'identità neutra, ma un'identità invece molto caratterizzante, come dicevi te, e che appunto attraverso quello strumento vuole produrre degli effetti a caduta. Però in salita, insomma, cioè in risalita, anzi, non in ascesa. In ascesa, esatto. Va bene, e io c'ho già pronta la traccia. Avevo già pronta la traccia, c'avevi. Perché non avevo messo il pausa. Però c'avevo già pronta la traccia. Veniamone. Niente, non ci riusciamo. Sì, forse questa te la. Riusciamo. Se sì. Poi te la presento. Veniamo prima. Nel terreno tuo. Sì. Te la presento, mandiamo prima. Due di seguito, va bene? Poi me ne okay. Dici pure una, mentre mandiamo questa mi dici l'altra. Va bene, sì. Scelgo io. Brevemente tre cose, sì. Sui tipi di contributi. I contributi sono di tre tipi: una canzone scritta e registrata da Renoiz, mm-hmm. E per questa compilation. Una canzone scritta ma non registrata da Renoiz per questa compilation. Una canzone dedicata, quindi non scritta né registrata per Renoiz, ma scelta dall'artista o dalla band e data a noi esplicitamente, cioè in modo volontario, per Renoiz, per questa compilation qua, sì. E tutte e tre per noi sono contributi super validi, perché è una scelta. Certo. Questo lo leggo un attimo al discorso che facevo prima, e che hanno fatto tutti quegli artisti là, chi ci conosceva, chi quindi non ci conosceva. Questa cosa qui no, esatto, non ha partecipato direttamente a una delle edizioni di questi 10 anni di Renoiz, però no. Contattati hanno deciso, insomma, per capire, contattati, sì. Hanno deciso, sì, vi diamo questa roba qua. Sì, sì, sì. La discussione, ce la assicuro, era molto interessante, perché non era neutra con gli artisti, e questa è stata una bellissima cosa. Okay. La prossima traccia sono Da Bink, dalla, sì, Francia, da Saint-Étienne, e traccia che è uscita adesso sul loro nuovo album, quindi traccia inedita, quando ce l'hanno data, e uscita adesso sul loro nuovo album. E bene, attenzione, che loro, che sì, sono venuti a Renoiz, invece sono venuti ad Agrobax ben 3 volte, e ci hanno dedicato addirittura il jingle iniziale. Ok. Donne e uomini, anche no. Neolaureati, che a causa della crisi a detta dell'azienda potrebbero rimanere senza lavoro. L'uomo è caduto in un silos, rimanendo intrappolato, sommerso dal gas. Aspettare e sperare. I lavoratori a progetto. Sbagliato con sé. Tutto in diretta, tutto con i microfoni aperti, nella migliore tradizione di Onda Rossa, vai! They want more rocker, we give them. Yeah, it's coming from the Bink. It's a big, big love and a big large up for all the Renoiz Project, you know that. We stay together against fascism and racism. Yeah, Renoiz Project, the Bink family, one low. They want more rocker, we give them. Yeah, it's coming from the Bink. It's a big, big love and a big large up for all the Renoiz Project, you know that. We stay together against fascism and racism. Yeah, Renoiz Project, the Bink family, one low. Sombré le quotidien, triste l'époque. Sombré le quotidien. chacun sa version, à chacun sa vérité. Certains voudraient la guerre, certains voudraient effacer tout ce qui nous rapproche et tous les efforts de paix. Quand tout semble perdu, ils font en sorte que tout devient confus, que chaque parole soit piégée. Plus l'ambiance est tendue, plus l'homme devient insensé. Laisse-moi répéter. Ces crimes, les images resteront gravées. Oh yeah. Prêt à faire ce qu'il dit, sortir le Glock. La peur à la mainmise, ferme ta porte. Et le feu qui s'attise grossit les stocks. De fous furieux qui disent qu'ils ne veulent pas accepter toutes nos différences, on perd la liberté. Qu'il n'y a qu'un seul sens, qu'un chemin à emprunter. Tu n'auras aucune chance si tu ne suis pas leurs idées. Laisse-moi refuser, je reviens pour chanter. Car on doit rester cool si le monde est bloc. Viens parler à la foule sans équivoque. Quand nos cœurs et nos âmes sont sous le choc. J'entends des amalgames et je m'en moque. Parla di un fenomeno politico. Dagli anni 20 fino a quelli con le teste rasate e il saluto romano dei giorni nostri. Quella è sublimazione di un fenomeno che prima che politico è sociale. Prima che sociale è interpersonale. È interpersonale. Il fascismo come dottrina politica è la trasposizione su un piano pubblico di un rapporto basato sulla coercizione e la violenza, sull'identificazione in un gruppo, sulla trasformazione da leader a capo. Il fascismo è corporativismo, è l'idealizzazione della gerarchia, della verticalità nelle relazioni, del prevalere del più forte sul più debole. Il fascismo sta nell'imporre la propria idea sugli altri con la violenza, a non metterla mai in discussione. We'll be right back. fascismo è spersonalizzazione dell'individuo e la sua identificazione in un gruppo. È il nemico che è qualsiasi cosa fuori dal proprio steccato. È la divisione degli esseri umani in categorie. Che fiorisce in idea politica e di società. Il fascismo è incapacità di amare, di immedesimarsi nel prossimo, di vedere nelle differenze unità. Fascismo è esaltazione della spirale di distruzione insita in ognuno di noi. Pasolini scrive: non occorre essere forti per affrontare il fascismo nelle sue forme pazzesche e ridicole. Occorre essere fortissimi per affrontare il fascismo come normalità, come codificazione direi allegra, mondana, socialmente eletta del fondo brutalmente egoista di una società. E quindi ritorniamo in diretta Radio Andaro 87.9 della modulazione di frequenza. Stiamo pian pianino scorrendo, diciamo, sì, dipanando la matassa di Renoiz 10, il disco uscito appunto in occasione di Renoiz, e abbiamo ascoltato Banda Iorona adesso, sì, dopo da Bink Banda Iorona, che invece ha fatto un'altra roba, un esperimento interessante. Sì, questa è una delle tracce che si chiama I Fascismi punto ora, se non sbaglio, non mi ricordo se c'era la virgola al punto, virgola, credo. Virgola, i fascismi ora punto, entrambi un po' ciecati, sì, esatto, ora sì, punto asterisco, che però significa un'altra cosa, asterisco, asterisco significa appunto registrata a Renoiz. E niente, loro sì, hanno fatto questo esperimento particolare, insomma, anche questa traccia che finirà sul prossimo disco, ma appunto scritta, dedicata per questa compilation. E noi siamo stati chiaramente ben felici di fare un esperimento. Non sono stati gli unici, insomma, né Bianca né tutta la banda Iorona né noi, diciamo, nel comunque di esulare, diciamo, da quello che è il percorso, sì, la strada già percorsa dalla band, e per in questa occasione andare un po' a ricercare qualcos'altro, andare, esatto, a variare. Sì, sì, sì, questo è stato un tentativo. Loro che insomma hanno sonorità molto più intanto strumentali, folk, sì, esatto, quindi, legate alla tradizione romana, alla popolare, insomma, romana, no? Sì, certo. E però niente, questo esperimento che lei ha detto, ma secondo Bianca, insomma, ha detto, ma secondo voi può funzionare, ci abbiamo lavorato, ci piace tutto quanto. Beh, a prescindere che la musica, insomma, ha un suo senso, ha tutta una sua forma particolare, eccetera, e che il testo è molto, sì, bello, c'è un evidente intento comunicativo, esplicativo, insomma, sì, devo dire che anche la capacità di declinare in qualche maniera ciò che a partire dalla loro opinione è il fascismo oggi, insomma, è un tentativo molto molto bello, che io ho apprezzato particolarmente. E poi boh, la traccia secondo me è molto figa, tra l'altro, insomma, invito tra l'altro i DJ che mettono dance o elettronica anche a prendersela, perché è una traccia che boh, si può mixare, sì, durante, sì, una serata, perché no? Ma assolutamente sì, sì. Invece parliamo un po' dell'asterisco. Vai. Cioè appunto quando c'è l'asterisco vuol dire che in realtà questa roba qui è stata prodotta almeno esecutivamente, sì, dentro gli studi proprio di Renoiz. Sì. Parliamo un attimo proprio degli studi di Renoiz, del progetto, cioè della cosa fisica, della, sì, struttura che è nata appunto poco dopo 2008, l'uccisione, sì, di Renoiz. Sì. È stata appunto la realizzazione di di questa roba e che ha visto la collaborazione di tanti e tante, quindi una, sì, una condivisione di idee innanzitutto, ma poi anche di capacità tecniche, proprio di mani, di saper mettere mano su, sulla strumentazione, sugli oggetti, sulle cose. Sì. Beh, Renoiz appunto è un progetto che nasce, come dicevo all'inizio, da, da una serie di scambi di idee, e tra cui appunto Renato l'aveva condiviso con tante persone, e in realtà anche prima un po' Antonio aveva più o meno una idea simile, e quando appunto è stato ammazzato Renato, i compagni e le compagne si sono posti un problema di come, al di là di creare poi l'evento Renoiz, quello a Parco Schuster, che dal 2007 poi si svolge, e come invece, come dire, provare a raccogliere quei sogni, cioè di creare un'etichetta indipendente dentro il luogo di Agrobax, dentro il centro sociale Agrobax, e da lì appunto lavorare sulla musica, lavorare sulla musica indipendente, lavorare sulla produzione culturale indipendente in generale. E tante persone si sono messe a lavorare proprio materialmente, cioè a ristrutturare quello che oggi è la sala prova e lo studio, e hanno fatto un progetto, cioè c'è gente che ha studiato, insomma il buon orco che si è messo a studiare proprio come si fanno determinate cose, il suono, l'acustica, le armoniche, tutto quanto, cioè come si crea una sala prova, come si crea uno studio, e avendo studiato si è creato un progetto, e dal progetto si sono presi i materiali, si è lavorato e si è realizzata questa cosa in maniera estremamente collettiva, chiaramente con lo sforzo di tutte e tutte. L'altro ieri proprio si parlava di questa cosa, e sempre si dice Renoiz siamo un po' tutti e tutte, e si diceva chiaramente ad Agrobax, insomma è un progetto che è nato collettivo e continua a essere collettivo, anche se poi alcune persone lo portano avanti in maniera più quotidiana. Esatto, no, proprio questo volevo arrivare, cioè anche questa idea un po' così, e noi viviamo almeno in una società, e di qui poi ritorniamo poi a quell'aspetto prima del fascismo di cui parlavamo, almeno lo spunto, l'idea che mi ha fatto venire è che viviamo in una società estremamente competitiva, no? In cui poi in realtà veniamo messi continuamente gli uni in competizione rispetto agli altri, le une rispetto alle altre, perché appunto l'emergere, l'essere davanti è comunque una conquista di stato sociale, è un po' l'obiettivo che viene dato, dopo questa parola obiettivo è una parola ricorrente, no? Sì. Ecco, in un progetto come Renoiz, invece, in quanto proprio te lo annunciavi, lo esponevi, in cui si dice tutti e tutte siamo in qualche maniera Renoiz, significa tenere da parte questa parte della competitività che si sposa molto, sì, con l'idea fascisteggiante della competizione in questa società. Sì, io penso che forse questo è proprio l'antidoto migliore. Credo che questa sia una caratteristica che non è mai cambiata, nonostante le difficoltà, il cambiamento del collettivo in sé, cioè delle persone che portano avanti, di chi è intorno a questo, sì, sì, collettivo. Ma magari la difficoltà, come dicevi, magari c'è anche in queste cose pratiche, c'è anche chi è, come dicevi, magari sta lì più assiduamente, fa più cose, cioè, magari sboccherà pure perché guarda sti stronzi, hanno lasciato la bottiglia di birra qui, non puliscono mai. Cioè, è la realtà, è la vita. Dell'autogestione, forse proprio questo si potrebbero dire tante cose, esatto. Forse qualcuna non si può dire in radio, no, però diciamo... sì, io ho detto una così. Beh, sempre così un po' cattiva per, sì. Però poco, però ce ne stanno, no, ci sta, no, ma è chiaro che queste cose ci stanno, così come ci stanno anche quelle cose invece belle, per cui Renoiz ha un bel divano accogliente, per dire, insomma, dentro, certo, lo studio, su cui tante cose sono avvenute negli anni, per dire, insomma, no? Tanta gioia regalata e così via, insomma, ma certamente questa cosa non è cambiata, cioè il senso della collettività di questo progetto, e anche noi che oggi lo gestiamo, che con questa compilation insieme ai compagni e compagni di Terni, insieme al compagno che è a Barcellona, eccetera, abbiamo voluto rilanciare l'idea di questo progetto, lo spirito, no, di questo progetto, abbiamo pensato che, come dire, noi possiamo lanciare il là, vediamo che raccolta ci sta da parte degli altri, e vediamo poi cosa quanto invece noi diventiamo in qualche maniera marginali rispetto a una possibile rete, un possibile meccanismo, no? Appunto, di quello che dicevo prima, un meccanismo a caduta che si crea all'interno della società, perché poi appunto le cose che tu crei debbono in qualche maniera anche porsi, sì, in realtà un obiettivo, che però è quello dell'intaccare l'esistente, no? Cose che si dicono spesso, si dicevano prima, insomma, intaccare l'esistenza a partire dalla nostra, no? Cioè a partire dalla nostra che ci lavoriamo poi quotidianamente, a partire dai musicisti che quotidianamente fanno musica, chi ci campa, chi ci prova a campare, chi invece dice io ormai ci ho rinunciato perché a campare non c'è campo, però che te sei fila, io la musica la continuo a fare perché è la mia vita, diciamo, no? E quanto questo cambia poi nelle proprie vite, nelle vite di ognuno, è molto più importante della cosa in sé, in qualche maniera. Cioè, quindi l'effetto accaduta, l'effetto riproducibilità, l'effetto ho imparato qualcosa oppure ho scambiato due parole e quindi torno a casa e faccio qualcosa a casa mia, in qualche maniera, in quella direzione. Cioè, questo è molto più importante, ecco perché tutti in qualche maniera siamo Renoiz, perché Renoiz ha un obiettivo sì pratico, che è quello di riuscire a lavorare di musica, a lavorare con la musica, a rendere, diciamo, questo un elemento di produzione di conflitto in qualche maniera, e quindi anche di ragionamento nella società. Però anche l'obiettivo che invece non è legato al posto fisico in sé, che appunto che tutto questo abbia un senso per altri, o a partire da altri, insomma, no? Quindi non necessariamente, non so se sono chiaro nella cosa, forse un po' confusa, però no, vabbè, ma non è importante a quest'ora, e ormai quest'ora siamo entrati nella 25 o'clock ora. Esatto. Quindi non ti preoccupare, si può anche essere estremamente confusi e il non senso qui regna da padrone, però vabbè. No, invece no, si è capito, sì, insomma, ecco, lo spirito secondo me è proprio questo, appunto, il discorso della competitività sulla musica, per dire, è molto acceso, perché oggi gli spazi sono pochi, gli spazi sono negati, i nomi affermati sono quelli che producono, diciamo, le linee guida di come deve andare anche uno scenario culturale, uno scenario poi culturale, perché in generale non è solo la musica. Sul fatto della musica, diciamo, del mondo della musica commerciale o del commercio che c'è intorno alla musica, che forse sarebbe ancora meglio. Però appunto scardinare questo è responsabilità di tutti. O almeno di tutti quelli e tutte quelle che in quell'ambito tendono a lavorarci, diciamo, o ci mettono la loro passione. E in questo senso, no, dicevo questa cosa prima, insomma, che la realtà è quella, la realtà c'è, non la puoi ignorare, parti da questo. E noi facciamo un tipo di lavoro, adesso poi ogni volta cerchiamo di rinnovarlo, ricostruirlo. In questo momento stiamo ripensando di nuovo tutta la questione dello studio, della sala prove, stiamo... perché lo dicevamo prima, è una sorta di fabbrica di San Pietro, è qualcosa di continuo, work in progress, continuo, sì. Stiamo rilanciando la scuola di musica, ci stiamo lavorando, abbiamo intessuto nuove relazioni, per cui si cresce anche da quel punto di vista, e si cresce dal punto di vista della programmazione, quindi dei contatti che ti ritrovi con gli artisti. Siamo cresciuti da un po', secondo me, su questa cosa qua, cioè i nomi sui manifesti, perché poi tutto crea senso, nel senso, secondo me, in questi ambiti tutto crea senso, proprio nelle logiche di potere che si creano, di competizione. Nome sul manifesto, metterne uno più grande, uno più piccolo, imparare a metterli tutti uguali, perché tutti hanno importanza, sia il gruppetto di Roma che suona Arpabetto, che suona in cantina, non è mai riuscito a fare col nome internazionale, questo dà il fatto che tu come dire, togli completamente le barriere di potere o di importanza, che creano pure disparità, insomma, nella curiosità, per esempio, invece del pubblico, no? Perché il nome grande ti crea curiosità, il nome piccolo dice vabbè, ma chi so questi. Sono tecniche meramente di marketing commerciale, insomma, che più o meno sono entrate poi nel mondo dei compagni, perché è un linguaggio. È un linguaggio. Insomma, è un linguaggio che uno segue, come seguiamo gli altri linguaggi. Allora, certo. Renoiz è stato affrontato, per esempio, e anche attraversato dalla problematica, magari non siamo noi che ne dovremmo parlare, perché non, probabilmente non abbiamo le sensibilità giuste, però anche dal problema, appunto, del genere, e sappiamo bene che ci sono state degli interventi. Io tra l'altro non ho mai partecipato a un Renoiz, lo voglio dire, a un Renoiz nel senso non lo studio, ma all'evento che si tiene alla fine dell'estate, proprio perché in quel periodo io non ci sono da sempre, sì. Io in quel periodo sparisco, c'è una sorta di mi metto nel bago della crisaia e poi riesco rinnovato, sì. Però mai come Farfalla, non sono mai riuscito nell'intento, riesco sempre mostro, però in ogni caso non sono mai riuscito a partecipare, ne ho sempre ognuno sentito parlare natura, in tutte, sì, esatto, sì. Va bene, io allora, no. Dato che ho preparato, volevi aggiungere qualcosa? Sì, no, per chiudere questa riflessione confusa su questa roba, sì, dei nomi grandi e nomi piccoli, cioè se uno guarda quella compilation, infatti, diciamo, ci sono nomi grandi e ci sono nomi piccoli, sì, e sono tutti insieme, certo. E per noi questo è un valore aggiunto, forse così è un po' più chiaro il senso. Da Bink per me è uguale a Contramina o Ultima Fase. In quella compilation assumono la stessa dimensione, sono una traccia che ha contribuito alla pari rispetto a un progetto come questo. Sì, poi lo dicevi prima, l'ordine non era un ordine di rilevanza, no, proprio della esposizione, sì, delle tracce, ma un ordine con un'altra logica. Sì. Tra l'altro è venuto abbastanza bene, a mio commento. Grazie. Cioè, nel senso che una compilazione, al di là del fatto che ci stanno delle macchine che ti rimiscelano tutto, quindi puoi benissimo non ascoltare in sequenza di chi la, e c'è chi lo fa abitualmente, proprio perché preferisce ascoltare con una sequenza casuale piuttosto che con una sequenza specie, poi quando li ascolti appunto in versione digitale, sì. Invece no, è una, mi ricorda, diciamo, un'epoca che forse anche te ricorderai, benché insomma, forse un po' più giovane, quando si facevano le cassette, no? Sì, si facevano le cassette, ricordo, per lì, e quindi bisognava, e non facevi la cassetta, copiavi la cassetta direttamente dal vinile come si faceva, ma andavi a fare una compilazione appunto delle cose che ti piacevano di più, le preparavamo, sì, persino qui per la radio da mettere dentro la pizzona, che poi avrebbe letto, la pizzona era questa multi lettore di cassette con 20 cassette dentro, 10 non mi ricordo quante erano, e quindi preparavamo delle compilazioni che poi andavano durante la notte al posto dell'automatico. E lo dovevi pensare in una certa maniera, cioè in cui piano piano per generi coinvolgevi chi ascoltava, insomma, e davi una traccia, un segno, e questa cosa qui penso che abbia, cioè ci sta sempre un'affinità fra la traccia precedente e quella successiva, sì, certo. E poi ti ritrovi alla fine del disco ad ascoltare un genere completamente differente, chiaro, sì, sì, sì, sì. C'era questa forse una, sì, logica, sì, sì, no. ci siamo studiati le fini delle tracce con l'inizio delle tracce anche. Cioè, questa l'abbiamo fatta, questa cosa, proprio per creare un ascolto, un'assonanza anche, sì, sì, sì. Beh, di consecuzione. Ma anche perché poi, se il piacere dell'ascolto è un piacere, come dire, apprezzi poi tutto il resto, che sono i contenuti, che sono, no, le parole della musica, tutto. Cioè, se te la godi e non skippi la traccia, ce la mandi avanti, come dire, ti apprezzi poi anche tutto il lavoro. Quindi magari sei curioso del CD successivo e poi se piace sei curioso dell'altro CD, comunque te li vai ad ascoltare con... Quando fate un viaggio in macchina, portate Pire Noise. Questo è vero, sì, sì, io l'ho fatto quest'estate, infatti funziona. Va bene, allora, abbiamo pensato a cosa mandare dopo? Sì, io manderei chiaramente una delle tracce registrate in studio da noi, mm-hmm. E una traccia significativa, insomma, ce ne sono altre, ma... Quindi. Chiaramente questa è particolarmente significativa per diversi motivi. E loro sono i Rancore. L'abbiamo già mandata questa, e vabbè, dai, senza annuncio, tanto lo sapete. E vabbè, sì, poi dopo ne parliamo, casomai. E anche perché so delle sole, quindi vabbè. A voglia. Caldo che avevamo tutto intorno. altro paio di occhi azzurri fino in fondo. Quel sole così caldo che non ho mai vissuto. Dai muri e dalle piazze è qualcosa che ho saputo e non ho conosciuto. Il tuo sguardo e il tuo sorriso è amore senza fine, mi rispecchio nel tuo viso. Sei il fratello di un fratello, sei una madre che commuove, sei la mia comunità che a suo modo ti rivuole. Riparte dai tuoi sogni rendendoli reali, perché sangue, rabbia e lacrime ci mettono le ali. Quel sole che sparisce dietro grandi nubi scure, che fatica a fare luci fra le troppe ombre nere, fra le pieghe della storia all'ombra dell'impunità, dove si aggiustano gli eventi e si allestiscono realtà. Quel sole che riesce a sciogliere gli ali degli eroi, che scalda, illumina, arde, brucia e ti innamora. Quel sole così forte che non hai visto mai, in giro per il mondo ce lo portiamo noi. Sei il fratello di un fratello, sei una madre che commuove, sei la mia comunità che a suo modo ti rivuole. Riparte dai tuoi sogni rendendoli reali, perché sangue, rabbia e lacrime ci mettono le ali. Renato è come il fiore che nasce dalle tame, sei Renato che respira a dispetto delle lame. Un progetto, un'ossessione, follia fatta in tuo nome, ed ogni suono che produce è un tuo battito del cuore. Quel sole che ci scalda senza fare differenza fra chi si pensa libero e chi liberamente pensa, che al culto della guerra, dell'odio del diverso, per istinto, per ragione, la risposta è resistenza. Quel sole che di notte illumina le stanze di chi con gli occhi rossi accoglie timide presenze. Un amore, un figlio, un fratello, un amico. Renato, Alto Taxo, Federico. Sei il fratello di un fratello, una madre che commuove, sei la mia comunità che a suo modo ti rivuole. Ripartendo dai tuoi sogni, rendendoli reali, perché sangue, rabbia e lacrime ci mettono le ali. Renato è come il fiore che nasce dalle tame, sei Renato che respira a dispetto delle lame. Un progetto, un'ossessione, follia fatta in tuo nome, ed ogni suono che produce è un tuo battito del cuore. Sei il fratello di un fratello, una madre che commuove, sei la mia comunità che a suo modo ti rivuole, che riparte dai tuoi sogni, rendendoli reali, perché rabbia, sangue e lacrime ci mettono le ali. Renato è come il fiore che nasce dalle tame, sei Renato che respira a dispetto delle lame. Un progetto, un'intenzione, follia fatta in tuo nome, ed ogni suono che produce è un tuo battito del cuore. Vabbè, Fabrizione, insomma, c'ha un bambino di un anno sì. e mezzo, sì. un anno, no, un anno, sì, un anno e qua, un poco più di un anno, sì. di luglio, mi pare, degli inizi di luglio. Però, insomma, è piccoletto, cioè, poteva pure venire, o almeno telefonarci, vabbè. Possiamo telefonare noi, comunque, questo è evidente. Sì, ma non è detto che ti risponde, capito? Questo perché pure... è vero, questo è vero, questo è vero. Vabbè. Sì, sì, sono tutti mezzi soli. L'abbiamo... l'abbiamo visti anche dal vivo, anche loro hanno suonato come tanti e tante della compilazione, Banda Irona pure, un po' tutti hanno suonato in varie occasioni e si sono incrociati con la radio, e questo è anche il motivo per cui appunto presentiamo con grande piacere questa compilazione, perché in qualche maniera, benché la radio appunto abbia semplicemente così di tanto in tanto parlato di Renoiz e alcuni dei componenti della radio, quale te sei stato, insomma, ha partecipato al progetto Renoiz, quindi queste intersecazioni di percorsi ci stanno sempre, sì, anche in una città, sì, grande come Roma, per fortuna. Però ecco, tanti e tanti di coloro che suonano in questa compilazione hanno partecipato anche al sovvenzionamento di Radio Onda Rossa, rancore più e più di una volta, sempre con enorme piacere, sempre gratuitamente, sempre con grande entusiasmo sono venuti, sì, a suonare per noi, e insomma questo ci piace, ne fa dei compagni e dei fratelli che ci piace sempre ricordare. Sì, tra l'altro io penso che tutti i gruppi che hanno partecipato, ma di là quelli che diciamo geograficamente sono un po' più distanti, quindi un po' più difficile, ma potrebbero ad esempio continuare a contribuire o contribuire per la prima volta, magari grazie a questa compilation, uno può, no, avendo avuto i contatti, possono contribuire ancora sia alla radio che ad altri progetti. Certo. Ci sono dei gruppi anche molto che suonano molto bene, che sono molto fighi. E che magari a Roma se sono venuti nessuno se n'è accorto, e invece sono veramente veramente molto bravi, i testi sono anche molto interessanti, alcuni devo dire abbiamo scoperto una serie di relazioni e di band piuttosto interessanti. Insomma, io sono rimasto anche abbastanza sorpreso, perché poi alcune cose sembrava, no vabbè, ma non lo so, quelli insomma manco come suonano, insomma manco no, bene come scrivono una traccia, no? Invece poi scoprì che sono molto più bravi di quello che pensi, anche più bravi di Rancore ogni tanto, cioè, adesso non voglio, non voglio sminuire Rancore, così ci vuole poco, insomma ci vuole poco, questo bisogna dire. ovviamente giochiamo. Mi ricordo una delle venute di Rancore qua in radio, che c'era un vecchissimo progetto che era precedente a quello di Renoise, perché per fortuna all'epoca Renato era ancora in vita, che si chiamava Roma Calling, sì, e che venne a rappresentare proprio qua in radio in questo spazio del mercoledì sera, e imboccarono circa una quarantina di persone, che erano tutti i gruppi al completo, no? Forse 40 no, ma perché ne erano rimasti una ventina di sotto sì, che erano andati a fare un mega attacchinaggio, non mi ricordo per cosa, stavano a girare qui con i secchi, le pennellesse per San Lorenzo, e imboccarono sui radio, e fu una apoteosi in cui diciamo la confusione che pensavi di aver instillato, fatto te nell'esporre quanto dicevi prima, è nulla rispetto al caos che si era creato con 20 persone nello studiolo qui della radio, che non ne può contenere 20, ovviamente. No, per cui stavano in corridoio, appesi al lampadario, insomma, una cosa molto interessante. Mi sarei dovuto portare altre 20 persone, così camuffato. Sì, cercheremo la prossima compilazione, diciamo, vorremmo tutti. Le spediamo tutti, non c'è problema. Saranno 74 band, per cui sì, la ognuna volta, dai 3 ai 5 esatto, elementi, esatto, ciascuno, mediamente. Sì, sì. Allora, possiamo trovare anche band da 10-12, insomma, senza problemi. Sì, così, sì, no? Sì, giusto, sì, per aumentare, sì, il numero. Sì, non sì, è che... Poi ci stanno, sì, pure. Magari troviamo anche appunto i neurologici, che invece sono in 2, se non sbaglio, no? Sì. Che stiamo ascoltando tra l'altro come base, anche loro hanno partecipato. Dunque, non so se volevi continuare te seguendo il flusso delle idee, perché a me un'altra cosa era venuta in mente. Vai, che domanda. Era, no, vabbè, non è una domanda, uno stimolo, anche perché questo qui posso fare. Vai alla grandissimo da solo e sei assolutamente super logorroico, quindi ti lascio proprio la passione di poter trasmettere così con uno che parla al posto tuo. Dunque, perfetto, per me è l'ottimum. Parlavamo appunto questo modo di lavorare insieme del progetto Renoise, quindi di questo lavoro collettivo, e a un certo punto abbiamo parlato di... hai sfiorato un argomento che mi è venuto in mente, perché ho lasciato parlare ovviamente per non interrompere il flusso dei pensieri, però è quello proprio che poi è collaterale al discorso della scuola, cioè proprio quello della condivisione, cioè un luogo dove poter anche imparare sì, semplicemente facendo, semplicemente collaborando, semplicemente vedendo una persona che fa altre cose, fuori sempre pure lì in maniera piuttosto informale, fuori per esempio da un'altra forma di commercio che esiste oggi molto diffusa, che è quello proprio dei corsi, dei workshop che vengono fatti non in situazioni di compagni, ma assolutamente a pagamento, e in cui anche tanti soldi, in cui poi alle volte si va a imparare cose assolutamente inutili se non dannose. Sì, questo fatto che non chiudi col punto interrogativo comunque un po' mi ansia, effettivamente. No, chiudo con i puntini. Continua te, io ho buttato lì la cosa. Ah, mia, non so esatto. Va bene, no, sì, la questione dell'imparare è effettivamente una cosa che a me pure piace un sacco. Tra di noi, tra tutti quelli che hanno insegnato a noi, poi c'è anche quello, no? Nel senso, sì, però anche sì, questo ruolo forse proprio docente discente, no? Diciamo, viene un po' meno in questa. Non è che viene, nel caso di Renoise Project non c'è, non proprio c'è. Nel senso, noi sappiamo delle cose, cioè noi conosciamo il nostro sapere, non so come dire, e conosciamo anche il fatto che qualcun altro sa qualcos'altro, cioè ne siamo pienamente coscienti di questa cosa. per cui ognuno in realtà porta un suo stile, un suo contributo. Abbiamo ci siamo dati ovviamente delle regole anche di lavoro, no? Mm-hmm. Adesso questa cosa in questo momento in particolare è più legata ai live, quindi all'organizzazione dell'evento, alla parte tecnica sull'evento, e ci autoprofessionalizziamo. Per esempio, alcuni di noi in questo momento sono due di noi che lavorano nel settore della musica, della tecnica, del suono, eccetera eccetera, e si è fatto un po' anche sulla parte dello studio, si farà molto di più a breve, appena stiamo appunto risistemando di nuovo lo studio, risettando tutto quanto, riprepararlo per la nuova stagione, e si parlerà di corsi, si parlerà di appunto invece lì insegnare. Però anche insegnare non significa dall'alto al basso, ma appunto poi si impara insieme in qualche maniera, no? Questo è un po' un elemento centrale e che noi sicuramente ci rivendichiamo, e ognuno di noi è cresciuto grazie all'altro. Non c'è nessuno che nonostante l'esperienza, diciamo, si poneva sopra tutti quanti, no? E faccio un esempio: abbiamo una persona di noi che è fonico proprio di professione ed è anche bravissimo come fonico, e questo non vuol dire che lui dice e noi facciamo, per dire, quando si tratta di fonia, ma si parla, ci si interagisce, e una volta che vede che qualcuno ha imparato comincia anche a fidarsi e quindi accetta il consiglio. Cioè c'è una scalata, per cui ci condividiamo la conoscenza. Abbiamo comprato il mixer nuovo l'anno scorso, benissimo, questo mixer lo sapeva usare solo lui, attualmente lo sappiamo usare in quattro. Voglio dire, insomma, poi con gradi diversi ovviamente, perché mano a mano si deve crescere, però per dire è proprio anche una capacità di conoscere proprio la materia, no? Perché poi parliamo di musica, parliamo di tecnica del suono, parliamo di capacità di stare su un palco, di stare dentro uno studio, di tenere in piedi una sala funzionante, di anche cose molto pratiche come fare i cavi o passarli o rifarli, quindi vuol dire arrotolarli, insomma, certo, no? Certo. Sono tutte cose che poi, diciamo, ognuno di noi ha imparato negli anni. Io ad esempio ho imparato tutte queste cose guardando, certo, rimanendo in silenzio quando dovevo rimanere in silenzio e facendo domande quando vedevo che si potevano fare domande, dopodiché facendo le cose. E sì, poi la mia fortuna è stata lavorare con tanta gente nel coinvolgimento, insomma, con tanta gente che non solo anche le volte nell'emergenza, nel allora, panico totale, devi fare una cosa, devi risolvere un problema impossibile da risolvere, ma incredibilmente lo risolvi. Sull'emergenza io sono diventato quasi un maestro, diciamo, e la radio questa cosa la conosce benissimo. Che dice: sai, dobbiamo fare un concerto, non abbiamo né il sound né i fonici. Quando è? Oggi pomeriggio. Ok. Con niente si fa tutto, no? Certo. Però è questa anche la cosa bella, perché poi non solo impari un mestiere, ma impari anche a fare quel mestiere in un modo diverso da quello che ti propongono fuori. Cioè non è la conoscenza fine a se stessa, che poi dici: ah sì, questa cosa la so fare così, ma è proprio un entrare dentro quel ruolo, un entrare dentro quel sapere, quell'attitudine, quel modo di fare, entrare dentro alla musica, conoscere i meccanismi della musica, dei gruppi, del live, dello studio, cioè di tutte queste cose qua, che si possono fare in un modo, come ti insegnano appunto in alcuni contesti, o come in alcuni contesti lavorativi tu sei obbligato, no? Perché poi appunto i contesti lavorativi spesso si assomigliano, no? Al di là del lavoro che fai, insomma. Certo. Oppure si possono fare come li facciamo noi, e come li fanno per fortuna tante altre persone, che producono proprio dinamiche di interazione, di lavoro comune, che è completamente differente. Poi è chiaro che laddove serve i ruoli ti ridistingui in base appunto alla conoscenza acquisita, alla conoscenza personale, al percorso personale, ma questo significa però anche valorizzare. Certo, in questo processo comunque collaborativo, in questo processo in cui appunto poi al contrario appunto delle dinamiche poi lavorative, nel senso appunto vogliamo dire una parola paurosissima e privata, capitalistica. Attenzione. Mamma mia. Vabbè, mi è venuta così, era forse l'unica cosa che riassumeva un concetto un po' brutto, no? Fa male il dente adesso. Sì. No, sì, normalmente appunto ci sta lì invece un'attribuzione gerarchica dei ruoli, che poi in realtà molti e molte compagne vivono sulla pelle, lo sanno benissimo, sono assolutamente storte, cioè assolutamente al contrario, cioè normalmente sì. Chi sta sotto sa, chi sta sopra non sa un cazzo, insomma essenzialmente un po' questa la dinamica, però comanda, perché è la dinamica del comando. Che quando si pratica invece discorsi di indipendenza e autogestione, normalmente appunto queste cariche rappresentative eccetera eccetera sono molto più naturali, in realtà sono delle situazioni in cui a un certo punto chi sa fa, perché magari in quel momento è l'emergenza, è il momento in cui deve, deve agire lui, perché non può agire nessun altro, insomma, molto banalmente e molto semplicemente. Sì, e l'obiettivo è anche condividere quello che sai, e quindi a volte potersi scambiare i ruoli. Certo, certo. Questa è una cosa che noi ogni tanto facciamo. Un'altra no? cosa, infatti, che è contro la gerarchia, diciamo, si oppone al modello gerarchico, è proprio quello di anzi, più cose sanno gli altri e più me posso, cioè riposare io, insomma, posso stare tranquillo. No, ma, infatti, a volte ci, tipo, ci scambiamo di quello che magari di solito rifassori rigai perché è appena arrivato, perché magari sta imparando, capendo come funzioniamo, no? Perché e poi subito comunque vengono mollate delle responsabilità enormi. Esatto, il giorno dopo magari c'è un concerto e dici, no, guarda, serve una cosa, butta dal mixer, no, ma io lo so, butta dal mixer, che te non ti preoccupare, fai così, e quindi provi a fare questo. Poi ci sono anche i contesti dove no, c'è cioè quella roba un po' più strutturata, perché ogni tanto te devi comunque strutturare per forza, se un po' non più funziona. Professionale, meno fricchettone. Allora tipo ci sta, io sono anche uno che di quelli, a parte la parte organizzativa, insomma, mi seguo un po' anche la gestione del palco, no, per dire, seguo più la parte live anche, e ci sono dei momenti che cioè io comando sul palco, punto, no? Cioè questa è la cosa, così come Gianluca che sta al mixer comanda al mixer, non si discute, no? Ma perché l'esigenza di quel momento, diciamo, sapendo che l'istante successivo può cambiare tutto in un istante, capito? Per cui, e comunque anche nel dire io comando non è che tu stai zitto, punto, no? Cioè io comando nel senso che serve organizzarsi, per cui serve qualcuno che si accolla alla responsabilità di prendere alcune decisioni, di fare le cose in un certo modo, ma chiaramente non c'è l'assolutismo, quello non c'è mai stato, non produrrebbe valore. Fa parte di quel discorso etico di prima. Chiaro, cioè noi pratichiamo un'altra cosa. È autogestione. L'autogestione è un meccanismo formidabile se lo sai praticare, o se almeno ci provi fino in fondo. Insomma, questo è fondamentale. Beh, ma la radio lo sa bene, no? Insomma, non produce profitto. Il problema dell'autogestione essenzialmente è quello. No, che non produce profitti, e quindi non va in linea con quelle che sono le dinamiche. Secondo me produce consapevolezza e benessere l'autogestione. Sì, esatto. Però di plusvalenza, diciamo. Sì, quella roba di cui parlavamo prima, infatti, bravo, no, non funziona. Produce competenza anche, certo, produce un sacco di competenza. Ma no, veramente la radio, cioè, lo sai, cioè, usare quei CDJ, usare quel mixer, usare quei piatti, usare l'automatico, il computer. Soli, non c'è nessuno che ci ha mai insegnato nulla se non appunto la condivisione. È un po' sì, in questo, diciamo, c'è la nostra etica, forse comune, uno dei punti di partenza da cui poter così andare avanti, fare il passo successivo rispetto a quelle spigolosità di cui parlavamo prima. Vogliamo mandare della musica? Sì, volevo solo dire un'ultima cosa. Perfetto. Mia, lo corre dici già che un elemento, questo lo dico per chiunque volesse eventualmente avvicinarsi non solo a Radio Onda Rossa, che chiaramente ci auguriamo Renoiz, tutti, ma anche a Renoiz Project, certo, dal punto di vista anche tecnico. È la pazienza, ragazzi. Cioè, sì. Non ha importanza niente, non ha importanza, diciamo, quanta roba tu conosci, che per cos'è. L'importante è la pazienza, cioè la pazienza di approcciarsi a un progetto e la pazienza di capire come quel progetto funziona, la pazienza di poter insegnare qualcosa e imparare contemporanea. Cioè, la pazienza su queste cose è tutto, anche perché di mezzo c'è pure una competenza davvero da acquisire, a volte minima, a volte un po' di più. Detto questo, mandiamo una traccia, perché se no sì, no, anche perché stavolta volevo mettere Filippo Andreani. Sono perché mettiamo, no, qualcuno che ci dice le cose come stanno, molto semplicemente. Mo siamo andati a parlare appunto di cose che poi tutto sommato ci riguardano, a esporre noi stessi, non nel senso noi e te, ma noi stessi come collettivi e come situazioni che organizzano il loro modo di fare autogestione, e vediamo che ci racconta un po' come vanno le cose nel mondo e nella società, e lo fa molto bene in musica, ritornando appunto alla musica, che poi era il punto di partenza. Bellissima traccia, infatti. Io tramazzo le Rivera avrei scelto vendrame. Non scelgo ragazzi dorati, li cerco di pane. E certi miei amici hanno facce sporche. Io tra Mazzole e Rivera avrei scelto vendrame. Non scelgo ragazzi dorati, li cerco di pane. E certi miei amici hanno facce sporche e sincere, hanno mani di pietra, occhi vivi, avanzi di cantiere. Stanotte a San Lorenzo piove forte sull'insegna spenta di Valerio, che è andato nella strada e dalla strada non sa più tornare. E anche Roma muore, Roma che ha troppi preti e conseguentemente troppe suore. Roma col diavolo in casa, con l'inferno ad un palmo di mano. Se lo vuoi vedere, sali al quarto piano, suonare verbano. Na na na na, na na na na na na na na na na na na na na. E sono come Nanni Balestrini, quando dormo sogno senza la punteggiatura. E vedo gli occhi di Renato senza la paura. Vedo frammenti di prato su viale Marconi, fango che sporca e pulisce mezzi litri e canzoni. E i colpi dell'aurora non arrivano in piazza del Gesù. C'è fumo nel cielo, ma Sigaro scrive molto, e il suo inchiostro una rosa e un pugnale, e Picchio conosce il vento, batte bandiera pirata, e Roma è il mare. Nell'ultimo mistero doloroso si contempla la crocifissione delle nostre buone idee sopra questa stagione. E si piange e si ride per niente, senza pietà per i nostri occhi chiari, tra chi è carico, tra chi è carico a corte, tra chi è liscio a denari. Avventura, ai stolti lascio il riso, ai sporchi la paura. Where we synopsis, where are we go? Queste dolci note ci abbiamo in diretta da Terni, se non vado errato. Sì, sì, abbiamo parlato di contributi dall'estero, no? Quindi abbiamo chiamato Terni apposta. Molto all'estero. Sì. Allora, sì, prima abbiamo domandato al nostro compagno e esponente di Renoiz Roma di raccontarci come era nata l'idea di appunto Renoiz Terni, e lui ha dato una sua versione dei fatti. Adesso vogliamo sentire la tua versione dei fatti, se combacia o se è assolutamente divergente. Sicuramente è divergentissima. Comunque, per quello che riguarda noi, in realtà siamo nati come Renoiz 2 dal momento che avevamo al tempo preso uno spazio nuovo e avevamo il bisogno e la voglia di aprire al suo interno una sala prove. E proprio in quel periodo poi nasceva anche il nostro gruppo musicale, e con la scusa abbiamo voluto unire le cose e appunto aprire, costruire questa sala prove e dedicarla a Renato e a tutto quello che lo circonda. Quasi uguale, dai, quasi uguale. Giusto. Sono contento allora. No, soprattutto, però non ci siamo neanche messi d'accordo. Soprattutto sei stato molto più coinciso e diretto al punto. Invece qui abbiamo appunto il nostro co-conduttore, che invece stasera si lascia andare in voli pindarici di non poco conto. Ma questo lui lo sa bene, perché quando ci facciamo le riunioni pure è tosta, no? Si allungano, sì, proprio perché te magari parli per mezz'ora cercando di spiegare un concetto e lui ti smonta in tre parole. Esatto. E quindi sì, diciamo che c'ho un po' il dono della sintesi, Senti, ma così ci vuoi dire allora, noi abbiamo parlato un po' di come è nata tutta la compilation, anche l'idea, insomma, il lavoro collettivo che abbiamo fatto, nonché tutti i vari pensamenti e ripensamenti, no? Sul supporto, il CD, la vennetta, il vinile, eccetera, eccetera. Un po' tutti i contributi musicali, abbiamo anche mandato prima la traccia di Chaos for Cause. E non so, no, figurati, guarda, quello lo sai che per mettervi in ombra faccio di tutto, insomma, quindi sì, infatti non è che fai una bella figura. Esatto. Senti, non lo so, tu vuoi dire un po' come avete vissuto anche brevemente da voi, da questa anche un po', io ho detto sarà un po' la prima volta anche che abbiamo proprio costruito una cosa insieme che è durata, no, un po' più del becchiamoci, magari facciamo un'iniziativa singola, no, però abbiamo un po' lavorato insieme per qualche mese, giusto se puoi dire due cose su questo. Guarda, per quello che riguarda me, ma penso che posso parlare un po' per tutti qua, i compagni Renoid Eterni, è stato un lavoro grosso, forse il più grosso che abbiamo fatto, e come dicevi tu, il primo che abbiamo fatto serio insieme a voi, però è stata un'esperienza a volte, a momenti anche toccante, perché comunque sia trovarsi il prodotto finito tra le mani è stato commovente. Io sono sincero, sono stato molto emozionato, anche perché c'è stato un periodo proprio che verso gli ultimi giorni, quando stavamo ai sgoccioli, che non sapevamo se ancora quanti pezzi erano, quale supporto, e se devo dire la verità, un pochetto c'è stato un pochino a non credere farcela, sono sincero. Poi ti stavi preoccupando, vabbè, seriamente. Sì, ero seriamente preoccupato, anche perché quando c'è stata la decisione di passare da vennetta a CD, eravamo tutti entusiasti, quindi si era stato deciso di fare doppio CD, c'era solo un problema, che il doppio CD prevedeva tipo 15 pezzi a CD, ma ci siamo accorti che i pezzi erano 47. Il problema nematico. Sì, ma erano solo 17 in più, e quindi c'è stata la proposta del terzo CD, e lì ho detto cavolo, qui non ce la faremo mai. Insomma, e invece ce l'abbiamo fatta e sono proprio contento. In quello stesso momento in realtà dovevamo ancora finire di registrare e mixare ben tre tracce che erano la vostra, quella di Rancore. Cioè, avevate iniziato per tempo, cioè un anno prima, no, a pensare al progetto. Esatto. No, che poi fondamentalmente sì, l'avevamo preso pure in tempo, perché ci siamo persi un po' per strada, ci dicevamo ma sì, ma dai, poi, perché poi il problema è avendolo preso troppo in tempo, allora ci dicevamo ma sì, c'è tempo, e allora però è andata grande. Sì. Non c'è verso, non si quadra, però alla fine incredibilmente, come diciamo sempre, si fanno sempre i miracoli. Sì, esatto. Senti una cosa invece, così molto più banalmente, Chaos for Cause, quando venite da ste parti? Ma noi in realtà ci stiamo spesso da quelle parti, solo che veniamo in veste privata, perché la domanda era quella. quindi questo è un invito, cioè a domanda mi hai risposto, cioè capito, ma se vi siete fatti terra bruciata intorno non è colpa nostra, però scusa, ho capito, ma noi dobbiamo usare questi canali anche per rilanciarci, cioè noi serve anche a questo. Vabbè, anche chi non è capace. La radio si farà ancora carico di ospitare in qualche maniera gli esclusi, dai. Volentierissimo. È il nostro compito, il nostro ruolo da sempre, la voce di chi non ha voce, insomma. E che voce vuoi? Esatto. Va bene. Senti, ma quando esce sto nuovo CD, quindi? Ma guarda, già te lo dico proprio in diretta, sperando che anche i diretti interessati sentano. In realtà noi venerdì insieme a Marco, a Cristiano, veniamo giù, che c'è serata ovviamente al Cinodromo. Sì. Prima di tutto per dare una mano e partecipare, e poi magari se c'era Gianluca vogliamo un attimo capire che verso volevamo far prendere a questo CD, che è stato preso pure in questo caso con molto tempo. Però ci stiamo perdendo per strada, come sempre. Vabbè, ma comunque diciamo lì non c'è una scadenza specifica, e no, ti assicuro. No, assolutamente no. No, e ti assicuro che è esperienza assolutamente comune qui, insomma, questo spazio, anzi, ovviamente invitiamo anche voi. Presentiamo band e lavori delle band, special modo se appunto sono lavori indipendenti e se sono lavori autogestiti, anzi più che specialmente, esclusivamente. Ci sei ancora? Pronto? Ci sei ancora? Sì, non ho sentito gli ultimi 10 secondi. Ah, ok, allora ti dicevo che normalmente siamo abituati a presentare lavori prodotti prodotti da gruppi indipendenti e lavori e autoproduzioni in questi spazi. Mi senti ora? Sì. Ok. E quindi assolutamente quando uscirà, quando riuscirete insomma a chiudere il cerchio, siete assolutamente invitati in questo spazio, ma è una cosa assolutamente comune. È una cosa comune che si faccia ci si dia una data e poi quella è un'altra data. Certo. Sì, ma poi cioè ne siamo anche orgogliosi di sforarla quella data, cioè non sarebbe da noi rispettarla, non, cioè certo. Proprio non vogliamo. È un tratto distintivo, una caratteristica di cui andate orgogliosi. Chiaro, è una questione di stile. Va bene. Senti, vabbè, insomma, intanto chiaramente io colgo l'occasione qui, non l'abbiamo forse fatto più di tanto, ma di ringraziare tutto il collettivo di Renoiz 2, che è un collettivo variegato, insomma, anche più ampio in realtà di quello di Roma, perché so, più persone effettivamente, molto più variegato, perché comunque loro hanno fatto anche una grossa parte di reazioni con i gruppi, insomma, quindi... È stato sì, poi dicevamo prima, lavoro. Ogni Renoiz poi ha le sue caratteristiche, le sue peculiarità. Ci parlava addirittura di un Renoiz 3 all'estero, addirittura. Berlino, sì. Sì, sì. Sì. Di cui però sappiamo poco, ho detto anche. Beh, sì, in effetti sì, però quella resta un po' più nel mistero. Sì. Perché noi abbiamo questa tradizione di conoscerci anche attraverso il cibo, in qualche maniera. Quindi noi andiamo a Terni a mangiare e loro. Chiaramente vengono qua e noi li lasciamo in Germania, non si mangia bene, questo vuol dire. Il problema secondo me è questo, però potremmo prenderci una birra con no? Vabbè, bisogna un po' variare sull'alcolico, sì. va bene e vuoi aggiungere qualcos'altro? Ci lasciamo e ti lasciamo in pigiama come sei per andare a dormire. In realtà io sto in giro in macchina con Cristiano, però c'ho l'auricolare, quindi è guida sicura, è legale. E niente, a questo punto io ringrazio voi che ci avete dato modo di poter fare questa esperienza che altrimenti non avremmo mai potuto fare. Grazie per averci messo nella compilation, e tra l'altro noi col gruppo quando andiamo a suonare le copie vanno a ruba, in qualsiasi posto andiamo ce le chiedono a ruba e questo fa molto piacere. Certo. E grazie a voi della radio, speriamo di vederci presto e basta. Senz'altro. Felice così. No. Sì. E soprattutto grazie per la sintesi. Prego. Grande. È una delle poche cose. Va bene, dai, ci vediamo presto, ci sentiamo presto. Un abbraccio, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Won't you come back no more, no more, no more, no more? Hit the road, Jack. Won't you come back no more? What you say? Hit the road, Jack. Won't you come back no more, no more, no more, no more? Hit the road, Jack. Won't you come back no more? Oh, baby, listen, baby, don't you dream it away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't get if you talk 'cause that's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. I guess if you say so, you're gonna have to pack my things and go. Hit the road, Jay. Won't you come back no more, no more, no more, no more? Hit the road, Jay. Won't you come back no more? Hit the road, Jay. Won't you come back no more? Won't you come back? Won't you come back no more? Won't you come back? Won't you come back no more? Won't you come back no more? Won't you come back? allora ritorniamo in diretta, quindi dopo la nostra chiamata a Claudio, se non sbaglio, no? Da sì. Terni. Sì. The Chaos for Cause. Così si dovrebbe più o meno dire, gli anglofoni sì, sì. lo dovrebbero dire molto meglio. Chaos. Internano va detto, esatto, sì, infatti. Dunque, e abbiamo ascoltato i DP. Un'altra cosa che mi viene in mente, così poi noi continuiamo ancora per qualche minuto, invece ci possiamo anche disimpegnare, no? Si dice sì, con immenso piacere vostro. Era che della radio, cioè. Invece no, noi in questo anno proprio faremo questo lavoro qui, di riacchiappare tutte le voci di Radio Onda Rossa, che sono penso milioni proprio, ma sì. tutti hanno parlato di Radio Onda Rossa a Roma, insomma, sì, almeno tutto il movimento in qualche maniera, e di cercare di trascinarlo qua negli studi della radio, perché appunto Radio Onda Rossa farà 40 anni nel prossimo maggio, e quindi da qui a maggio ci prendiamo questo impegno anche noi. Allora, l'idea che mi era venuta ascoltando questa traccia molto significativa degli DP è di come in tutta questa roba qui, in questo progetto che è stato questo di questo CD Renoids, e nell'ascolto che si fa, a parte proprio i gruppi come dicevi te, che hanno proprio pensato, scritto, dedicato, musicato una traccia per Renoids, per Renato e ad hoc, ma proprio la capacità invece proprio di azzeccare, assolutamente, di essere in sintonia con quella che era l'idea del progetto iniziale, di aver assimilato e di essersi di aver dato il loro contributo, dove il contributo non è semplicemente appunto prendo una traccia del mio repertorio, vado a caso, no, nulla di tutto, hanno perfettamente percepito qual sì. era. Sì, è quello che ti dicevo prima, la discussione è stata interessante con i gruppi, no? Anche nella scelta delle tracce, di chi ha scelto e non ha scritto ad hoc, eccetera. Cioè, è stata una cosa interessante proprio questa, ma anche con gli internazionali. Cioè, adesso anche questo pezzo di DP è un pezzo anche qui un po' sperimentazione rispetto alla modalità, sì, alla sonorità. Ska che viene da Viterbo, dalla Tuscia, insomma, non proprio da Viterbo. Però appunto hanno fatto un piccolo comizio musicato attraverso. Esatto, poi è la scelta che abbiamo fatto, un po' che abbiamo proposto noi come Renoids, e attraverso la mente, diciamo, chiamiamola creativa di Gianluca, e che loro hanno accettato di buon grado, della voce graffiante, no? Cioè comunque anche è tutto sempre stato molto significativo il passaggio di elaborazione delle tracce, e veramente anche con gli internazionali che ti dicevano no, ma secondo me in realtà invece, cioè, rispetto a quello che c'è scritto nell'appello, secondo me questa è più adatta di quell'altra. E tutti così, è stata una cosa che tu dicevi vabbè sì, figura, io con gli internazionali magari gli dicevo no, ma guarda, per me certo andrebbero per me bene queste qua. Sì, gli dicevo, perché alcuni mi dicevano ma tu quale daresti, no? Io dicevo boh, magari queste qua, dice no, però di queste qua secondo me questa, perché certo, un contributo sì, come dire, interessato, proprio mirato, ma proprio interessato sì, non al proprio tornaconto, ma interessato proprio affinché sì, sì, il sì, progetto arrivasse al punto. Anzi, molti hanno chiedevano per esempio come si distribuiva, come si pubblicava, e se finiva o non finiva online, nel senso scaricabile, quindi ascoltabile, cosa che succederà e, appena avremo elaborato tutto il materiale, tutto il sito, eccetera, eccetera, che ci saranno anche nella versione online, pensi ci saranno anche altre cose oltre alle tracce del disco, o sarà più o meno la fotocopia? L'idea appunto è rilanciare, quindi non finire con questo, cioè questo è un primo step, a partire da quello che c'è su questa compilation, con i contributi chiaramente di chi sono i gruppi e quant'altro, andare sì, ad implementare, diciamo, questo, diciamo, lavoro che, appunto, sì. Poi l'altra parte che poi proprio forse interessante anche per questo, no? Di come poi sia lontanissimo lo scopo commerciale di tutta la faccenda, è che sì, per esempio le grafiche sono estremamente scarne, sì, cioè delle grafiche significative, sì, importanti, ma non c'è alcuna nota, un po' perché siamo nell'era di internet, per cui chiunque poi vuole andare a conoscere la band qui proposta non c'ha problemi a avere informazioni, sì, a avere informazioni, però dall'altra parte appunto come dicevi te, ogni gruppo ha il suo carattere e il suo nome scritto nel medesimo carattere. Sì, assolutamente sì. Sì, anche la grafica, appunto, l'abbiamo scelta molto. Poi il contesto è quindi la fretta anche di cui parlava Claudio, eccetera. In realtà ci dava modo di ragionare anche diversamente sulle cose, quindi è stato uno stimolo più che una, cioè anche una difficoltà, giustamente, che poi davvero abbiamo chiuso queste cose, certo, di notte, no? C'è la traccia casporcosa, è arrivata ad andare in stampa dopo che abbiamo mandato in stampa tutto il resto, cioè nel senso abbiamo chiuso i mastering, no? Di corsa, le tracce, le grafiche, tutto quanto. Quindi è chiaro che la fretta è sempre complicata da gestire, però ti dà modo di ragionare diversamente, e quindi la semplificazione di tutto quanto è stata poi grafico, che Elfo chiaramente ha fatto un suo ragionamento, ce l'ha proposto, e poi nell'itinere di tutta questa roba, nel percorso, chiaramente ci si confrontava, sì, no, questo ok, ci piace, non ci piace. Pensa che addirittura non aveva un nome la compilation. Tu dici, perché adesso ce l'ha? Sì, cioè nel senso si chiama 10 in realtà, no? Sì. Cioè noi la chiamiamo Renoiz 10, ma in realtà si chiama 10 la compilation e basta. Poi ci sta la scritta Apes Invade City. Apes Invade City, sì, che è, appunto è... Le scimmie invadono, sì, le città. C'è tutta la storia, perché su ogni manifesto di Renoiz c'è la scimmia. Poi negli ultimi manifesti ovviamente c'è questo albero con le scimmie che di anno in anno sono aumentate. Mm-hmm. Quest'anno era stato fatto addirittura un percorso di grafica online, per cui tipo negli ultimi giorni le scimmie mano a mano aumentavano su le cose grafiche online. Vabbè, c'era lì... Chiaramente poi noi siamo anche un po' matti da questo punto di vista, però invece sulla copertina, sul libretto eccetera, abbiamo detto no, non serve. Abbiamo scritto quella cosa alla fine, quelle quattro righe insomma, che abbiamo sintetizzato l'appello. Ma abbiamo sintetizzato un po' semplicemente il modo in cui abbiamo costruito questa cosa e chi l'ha costruita, quindi ringraziamenti vanno veramente alle tantissime persone che ci hanno aiutato, a chi ci ha aiutato per esempio a mandarlo in stampa, e a cui chiaramente che mandiamo un enorme abbraccio e saluto, perché chiaramente ha pazientato. Sì, e poi anche perché normalmente, appunto, quando vai, almeno nei rapporti che ho io con le band eccetera eccetera, quando parli di appunto la produzione di un lavoro, o l'autoproduzione ancora meglio, di un lavoro, e loro ti dicono sì, bello, autoprodotto, l'abbiamo fatto praticamente tutto noi, e poi dopo verso la fine, quando appunto è il momento dei ringraziamenti, poi escono fuori una miriade, per cui l'autoproduzione di per sé è per forza di cose un meccanismo collettivo, e che comprende pure persone che magari hanno fatto un pezzettino piccolo, che però non puoi non ringraziare, non puoi non mettere, perché probabilmente senza quel pezzettino tutto il castello crollerebbe. Sì, infatti lì i ringraziamenti sono facili, grazie a tutte e a tutti, perché se no era troppo, cioè ci avremmo dovuto fare il libretto solo sui ringraziamenti, non si poteva fare. Invece così, tra l'altro, abbiamo trovato anche che era molto più bello, senza stare a specificare chi, cioè, certo, appunto, nell'ottica noi siamo tutti e tutte, grazie a tutti e tutte. Certo. Grazie anche a noi stessi, in cui noi è un noi assolutamente plurale. Sì, anche perché Renoiz, senza le tante persone che l'hanno attraversata, l'hanno costruita, l'hanno appoggiata, supportata, hanno contribuito agli eventi a Parco Schuster, alle iniziative di sostegno, a quelli che te chiamano all'ultimo, no? E cioè tutte le realtà, tutte le persone singole che hanno semplicemente magari parlato di Renoiz, in qualche maniera Renoiz non ce la farebbe a resistere, insomma, Renoiz resiste perché c'è tutta questa roba dietro, c'è tutto questo tessuto importante e fondamentale. Adesso non so se stai mettendo quella traccia che ti ho chiesto prima, ma SS sono per esempio uno di quei gruppi che con noi stiamo provando a lavorare, stiamo provando a costruire, diciamo, delle cose, e loro hanno fatto delle registrazioni da noi, e per ringraziarci così proprio di loro spontanea volontà hanno costruito un video sul fatto che hanno registrato, no, su una canzone, e hanno messo le immagini ringraziandoci, quindi in qualche maniera promuovendo anche un po' quello che è il senso del progetto, il progetto in sé. Quindi appunto sono, e questa è la moltiplicazione di cui parlavamo all'inizio, no? Chiudiamo il cerchio su questa roba qui, cioè la moltiplicazione sta qui, non Renoiz 1, 2, 3 che sono moltiplicazione, ma la moltiplicazione sono tutte queste cose qua, è questa trasmissione, è un sacco di altre cose, quindi Sì, insomma. Reynolds continua. Reynolds continua. Reynolds è... come in quei film, no? Quando a un certo punto, cioè, finisce il film che ti ha tenuto alla poltrona per tutta la serata e poi continua. Sì, non anche perché è fatta di sogni, come tante belle cose. Perché è un sogno, di fatto la propria, sì, la propria natura è proprio quella del sogno, era i sogni di Renato. Esatto. Va bene, dai, est, ti ringraziamo, noi mandiamo magari qualche altra traccia, sono le 23.30, siamo quasi nella 25esima ora, quindi dai, a presto, sappiamo che tornerai in radio perché ormai sei rientrato, hai preso non ti ho fatto mettere al mixer perché sennò tornavi domani no. Diventava imbarazzante per i compagni. Piano, esatto. Sì. Dopo appunto il compagno che, la compagna che domattina doveva fare la segna stampa ti si trovava in mezzo alle gambe e magari gli davi fastidio. E quindi vabbè, dai, est, ci salutiamo così. Grazie a voi, grazie chiaramente alla radio, grazie a te che mi hai chiesto di venire, comunque questo è dovuto ovviamente. E grazie a tutto il progetto Reynolds. Dai! Te al nemico fuggi mondi per l'aride montagne cercando libertà tra rupe e rupe contro la schiavitù del suolo tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglie, temprammo i muscoli e i cuori in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Di giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il colore della bandiera, partigiano della forte ardente schiena. Sulle strade dal nemico assediate lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande riscossa, sentimmo l'amore per la patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire, sarà la legge dell'avvenire, sarà la legge dell'avvenire. avevamo cercato di contattarli, Citizen Kane, anche loro partecipano alla compilazione Reinoids 10 o 10 o comunque la vogliate chiamare. Perché senza troppo urlare, Citizen Kane pian piano in questi anni sono state, a parte una band che è venuta a presentare i suoi lavori qua in radio, salvo quest'ultimo lavoro del 2012 ormai, che è presente appunto nella versione di Vili e Serpi, che è sempre anche quella un ricordo a 10 anni da Genova, un po' di più, 11 anni da Genova appunto, e racconta quelle giornate nella forma ermetica, poetica. Prove di Carlo, Barbara e Stefania, cioè i componenti dei Citizen Kane. Citizen Kane che sono attualmente fermi per motivi molto felici, come dire. Per cui li andiamo a salutare. E invece dall'altra parte già scorre sotto la nostra voce che andremo a rimandare da capo. Dal primo disco, quello nero, Reinoids, you are master, faster, faster, faster, you have be master, Sox da capo a Radio Onda Rossa, 25 o'clock, Reinoids. Don't you mind? papà, para papà, papà papà, para papà, papà papà, para papà, para papà, papà papà, papà papà, para papà, papà papà, para papà, papà papà. Quando armadino mi sveglio, giusto un istante da solo, come se fosse il giudizio, son po' dal letto e me muovo, come la fiera ma giro, dentro quell'uscio sfogato, e il sole m'ha preso in giro, lui ancora dorme io alzato, una scintilla me muove l'anima, un fuoco che me dice te, sceglie la rotta col vento contro, alza le vele e scopri da te. Para papà, papà papà, para papà papà papà papà, para papà papà papà, para papà papà papà. Quando che poi sorte il sole, io so già sveglio da un po', trascorse so troppe ore, fremo de vita lo so. Poi quando il cielo si spegne, rosso d'amore scolora, l'anima mia non se venne, e nera de rabbia è la sera. Una scintilla me muove l'anima, un fuoco che me dice te, sceglie la rotta col vento contro, alza le vele e scopri da te. Se all'orizzonte oltre le nuvole io so sicuro qualcosa c'è. Para papà, papà papà, para papà papà papà papà, para papà papà papà, para papà papà papà, para papà. Para papà, papà, papà. E non so se vi è capitato in questo, in questo periodo, in questo ultimo annetto in cui questo personaggio, questi, per questo, questi personaggio misterioso che si nasconde dietro lo pseudonimo di Muzung Trash Orchestra, e ha mandato una mail con una traccia MP3, come se fosse il giudizio, dove c'era scritto sopra Muzunga Trash Orchestra Scintilla, dentro quell'uscio sfogato, per cui abbiamo popolato l'automatico di radio, l'automatica di Radio Onda Rossa. Lui ancora dorme, io alzato, una scintilla di questa traccia. E di più, ogni tanto loschi personaggi della radio l'andavano ripetendo senza ovviamente svelare il mistero di chi si nasconde, di chi vi si nasconde dietro, anche se ormai lo sanno tutti, Siete Pulcinella. Vabbè, vi è capitato di ascoltare questa roba qua in macchina, magari di mattina presto alle 6 quando andate al cantiere? Oppure di notte quando tornate ormai sfatti da una giornata impossibile, l'anima mia non si vede, in questa città di merda, rabbia è la sera, una scintilla, o nei dintorni di essa, non dimentichiamo mai la provincia, il centro che noi ci interessa, che è di fuori. Alza le vele e scopri da te, se allora... Ed ecco queste parole, questi ritmi vi danno la forza di continuare, di fare un sorriso comunque, magari che finisce in una fragorosa risata. Fanculo tutti e tutte. io ce l'ho dentro sta scintilla. Renoiz 10 ancora scintilla, Muzunga Trash Orchestra. Sensazioni e gesti di un assurdo che rimangono sfumature di lezioni che non si allontanano, ma tornano e restano. Se basta balla musica per dare una svoltata, bella allora via di sta raga moffata. E va come va, e vien come vien. Again, again, again. Se basta balla musica per dare una svoltata, bella allora via di sta raga moffata. Che va come va, e vien come vien. Sono 10 anni, bestierare per Renato. E allora, se tu mi dici che è gente che hanno mandato, e la sua colpa era di stare al Buena Onda nel momento sbagliato, non capisci, eravamo rimasti in 15, stai parlando con Renato. Era mezz'ora che me ne ero annato, e poi l'ho raccontato, e adesso raccontiamo. Lancio una strofa in aria pure per mamma Stefania. Siamo suono, gioia, la memoria. Siamo una storia che non dimentichiamo. Stretta nelle mani come sabbia, la vendetta la lascio agli infami e mi tengo la rabbia. La me bastarda di gente ignorante che inneggia il fascismo e vuole il sangue, amica delle guardie, punta alla vita, rompere ossa la sua sfida, perché a spezzare un sogno non c'è mai riuscita. Tanti contro uno il loro metro, e noi dobbiamo andare avanti e nemmeno un passo indietro. So cent'anni ma non sei cambiato, cent'anni e il tuo metodo è identico. Se so 10 anni che non c'è più Renato, per altri 100 anni io non me lo dimentico. So 100 anni ma non sei cambiato, 100 anni e il tuo metodo è identico. Se so 10 anni che non c'è più Renato, per altri 100 anni io non me lo dimentico. Non è la lama che l'ha ammazzato, ma la massa di cazzate che hanno raccontato. Io c'ero, io lo sapevo e non ci sono andato. Ma è vero che era ubriaco, che era drogato, straniero, si te pio te meno, bangla, albanese, zingaro, rumeno. Te la sei cercata, legge del mercato, legge della strada. Chi non è omologato la paga, per chi compila verbali e telegiornali, rossi e neri tutti uguali, e non è un film di Alberto Sordi. Renato se n'è andato per un agguato fascista, ma per il giornalista è rissa tra balordi. E fissa nei ricordi questa definizione, al posto di un pezzo di cuore quelle tre parole. Se a Parco Schuster da 10 anni urlo il tuo nome, perché non c'è fascismo peggiore della mistificazione. So 100 anni ma non sei cambiato, 100 anni e il tuo metodo è identico. Se so 10 anni che non c'è più Renato, per altri 100 anni io non me lo dimentico. So 100 anni ma non sei cambiato, 100 anni e il tuo metodo è identico. Se so 10 anni che non c'è più Renato, per altri 100 anni io non me lo dimentico. So 100 anni ma non sei cambiato, 100 anni e il tuo metodo è identico. Se so 10 anni che non c'è più Renato, per altri 100 anni io non me lo dimentico. So 100 anni ma non sei cambiato, 100 anni e il tuo metodo è identico. Se so 10 anni che non c'è più Renato, per altri 100 anni io non me lo dimentico. Eh sì, perché Renoiz nasce da un sogno, spezzato. Era quella di Renato, quindi Baracca Sound, Bestierare. The Babylon system is green, many stars for some of a fee, many lift the blind pain a cake. Ed ora Radici nel Cemento, Unite. Make me live at full speed, take a lift from reality. Questa è 25 o'clock, Radio Onda Rossa. More, let's get up, stand up and win this, your world. Che va a modulare i suoni grazie a questa raccolta Renoiz, che ricordiamo vi potete accaparrare in giro per la città. Nei posti, nel nei banchetti vari degli spazi occupati dove è distribuito appunto questo triplo CD, qualche copia ce l'abbiamo anche qui noi in radio. Che andrà a sostenere il progetto Renoiz, nonché, come si dice nelle fanzine, la scena che ci gira intorno. Quindi da capo, quando sono le 23.56, dalle 9.30 che siamo in diretta. Come avete potuto notare, questa sera cambio di palinsesto in radio il mercoledì, quindi si conclude con Mezzedes il redazionale che si tiene tutte le sere, adesso il martedì e il mercoledì di ogni pomeriggio, più che sera, dai, dalle noi non siamo come loro, alle 18 alle 20 all'incirca. Poi Allegro con Fuoco, che si è spostato il mercoledì, prove tecniche di trasmissione che non è andato in onda questa sera, e infine a chiudere sempre noi altri di 25 o'clock da capo, no, non più, ormai sì, Unite. Many lived a life in a cage, and then end up in bitter and rage. It make me live at full speed, take a lift from reality, I see my weed. Oh no, I can't stand it no more. Let's get up, stand up and win this, your world. Unite and fight for your rights. Shelter guaranteed to all, a good education and the end of each war. Power to the people and then Babylon a fall. The capitalist system in control, we the people united gonna make it fall. It's a must like a fist against them, it's a social living army shooting bam bam bam bam. Unite and fight for your rights. Race has been a one of us. Coinvolti perché è tutto sbagliato, se non girano soldi ogni sogno è schiacciato, è la legge del mercato che livella tutto quanto, il veleno che ci mette tutti uno contro l'altro, la misura del mondo è l'oro, ma noi no, noi non siamo come loro. Unite and fight for your rights. La morte abbassa lo sguardo. Io le so bene le risposte che sa darmi, e grido solo per la via come Giovanni da più di 30 anni. Per questo parlo, per la gente senza fiato, per chi non ha tempo e sogna un tempo indeterminato. In testa musica ma niente tra le mani, in cuffia al capolinea, piazzale dei partigiani. Scrivo per Reggio e per chi vive alla giornata, scrivo un'altra avvelenata sopra i muri della strada. Scrivo una nota e una parola, io ci credo ancora. Scrivo Cuba Libre, non intendo rum e cola. E l'ho già detto che di fatto siamo in tanti. Questa è musica, rivoluzione dentro ai vostri impianti. Va oltre le parole, la vera musica va, va oltre le parole. Chi la tocca muore. Musica, musica, rivoluzione. Va oltre le parole, la vera musica va, va oltre le parole. Chi la tocca muore. Musica, musica, rivoluzione. Io scrivo rime e lascio

E c'è spazio anche per la Murga, Los Tres Altos. Cioè, nero, io non sono mai stato così ostinato, destinato a cercare una luce. È vero che siamo ciò che facciamo. Poi ci riprendiamo sta strada, vediamo dove conducevamo. No, noi ieri sento boss, poeti con le ossa rotte da silenzio e colpe. Vamo no, noi ieri sento boss, ti chiamano bastardi per il compromesso e tardi adios. Lei porta i segni delle, si senta sulla pelle. Se le togli la vita si offende, prende fiera in prima linea fra le coperte. Sta sospesa come la pena, come le stelle. Questo gioco di fuoco che non approva. Ma nel nostro mare le sirene ci affogano. Anche per oggi non si vola, ho stress. Il petto le giostre, morisco dall'ostre. Quadrano morte. Al fondo del mare la cenere. Che i sassi che tiriamo danzano sopra le sponde, ma non ritornano più, ma in questo più. Lo Stress Alto, la cumbia della celere, Radio Onda Rossa 25 o'clock, Ray Noise 10. Los Tres Altos e anche They kick at your front door. How you gonna come with your hands on your head? Beble Fetzer hanno suonato per la radio molte delle band che hanno partecipato alla compilazione che questa sera vi abbiamo presentato. Noi ci avviciniamo alla fine. E questa sarà un tormentone perché la trovo fighissima questa cover dei Clash, The Guns o Brixton. Weber Fletzer a Radio Onda Rossa da capo. Kick at your front door. How you gonna come with your hands on your head? On the trigger of your gun. When the law breaks in, how you gonna go? Shout down on the pavement, all waiting on the road. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer to. But surely your time will come. As in heaven, as in hell. You see it feels like Ivan. For under the bricks and sun, his game is called surviving. At the end of the harder day come, you know it means no mercy. They got him with a gun. No This game is surviving as in heaven as it is. You can crush us, you can bruise us, but you have to answer to. Cioè 15 minuti dopo la mezzanotte, 25 o'clock, chiude qui. E lo fa attraverso Zion Train Fit Damon Fleck Money Remix. Infatti la programmazione in diretta di Radio Onda Rossa finisce a quest'ora. Ci sarà però la compagna automatica nuova, anche questa autoprodotta, pian pianino impariamo a far meno dell'industria e del modo di produzione industriale, almeno in parte. Eh sì, perché tanti anni fa questo era uno spazio dedicato a queste sonorità e magari qualcuno ha avuto un déjà vu. Comunque sì, dai, ci proponiamo anche questa quest'anno, di portare vecchi conduttori della radio. Nuovamente a proporre vibrazioni molto meglio di quanto sa fare il sottoscritto. Per cultura, per abitudine, per formazione. Dicevamo quindi, compagna automatica che vi terrà in che vi proporrà la sua selezione durante la notte insieme alle repliche che di tanto in tanto vanno nelle ore notturne, poi si riprende in diretta domani mattina alle 8. con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa, cittadini redazionali del giovedì alle 13, il giornale radio e lo spazio comunicazione visionari, la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa e a seguire Tracce di Cinema. E tratterà di John Carpenter con Filippo Gatti. Alle 17 la Schiena del Sol, e poi alle 18:30 Profondo Rosa sui movimenti LGBTQI. Dalle 19:30 il giornale radio, e poi spostato di ora, di fascia oraria, di giorno nel palinsesto, quello che si chiama ancora il martedì autogestito da femministe e lesbiche, che coprirà le 3 ore serali dalle 20 alle 23 per quanto riguarda il palinsesto del giovedì di Radio Onda Rossa. E quindi con uno dei nonsensi tipici di Radio Onda Rossa, abbiamo una trasmissione che si chiama Il Sabato del Villaggio che si fa di domenica, così avremo il martedì che si fa il giovedì, ma meglio di noi, ma chi c'è? Quindi un benvenuto alle compagne del martedì al giovedì. E alle 23 il palinsesto della radio si chiude con i cuginetti di Apostasia. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutte coloro che ci ascoltano nelle condizioni di limitata libertà personale, il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, i famiciliaggi, CIE, tutte le altre robe amministrative che ci costringono a tutte e a tutti. Ha delle gabbie più invisibili, ma non per questo meno coercitive. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo, chissà cosa succederà, non lo sappiamo. Ancora comunque qualcosa succederà. Dai! Sister, the best dream. begin, tonight we'll win. Let it begin, tonight we'll win. Dreams, I'll share our dreams under a communist moon.